Verrà più tardi. Verrà più tardi. È filosofo. Filosofo. Starà a pensare. Il senso del tempo. Ecco, allora. Rufus in favola. No, questo è Pompei. L'ombra di Pompei. L'ombra di Pompei. Adesso siamo tutti. Solo sì, Hintz non manca c'è. Manca Hintz, vabbè. No, manca. Allora, prego, il professore Francesco, sì. I bagordi di ieri spero che non abbiano portato troppa stanchezza per sentire una conferenza di un politologo e filosofo della politica, delle idee politiche, come il professor Francesco di Genova. Dunque, dulcis in fundo o venenum in cauda, ecco, spero che non sia il venenum in cauda. Innanzitutto tre avvertenze. Una già l'ha fatta il professor Vandruska, che ringrazio, e cioè che io non sono uno storico di professione, ma uno studioso di filosofia politica. La seconda avvertenza è che, almeno in Italia, la filosofia politica sta diventando qualcosa di terribilmente complesso e complicato, grazie anche a Cacciari, agli amici napoletani e alle recenti riviste di area marxista. Io appartengo ad un'altra parrocchia, quindi cercherò di essere quanto più semplice e accessibile è possibile. La terza avvertenza è che nella mia relazione non mi occupo delle correnti di destra e di sinistra del fascismo, questa ricerca è già stata fatta, direi, molto bene, da Luisa Mangoni, da Mario Isnenghi, da Emilio Gentile, che avete sentito qualche giorno fa, no? Nei volumi, a mio avviso, fondamentali, che sono l'ideologia del fascismo e il mito dello Stato Nuovo. Nella mia relazione invece mi occupo di un problema che forse ad uno storico di professione può sembrare abbastanza secondario, cioè della definizione del fascismo a destra o a sinistra. Il fascismo fu di destra o di sinistra? Però occorre premettere qualcosa proprio in riferimento a questi due termini così infuocati del linguaggio politico e non solo contemporaneo. È convincimento comune agli storici e agli studiosi delle teorie e dei fenomeni politici che destra e sinistra sono termini e concetti che risalgono alla Rivoluzione francese. Durante la Rivoluzione francese la nobiltà e il clero sedettero alla destra della corona perché per antico simbolismo medievale la destra era il posto dell'onore, no? Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, la nobiltà sedeva alla destra del sovrano, che nell'ideologia dell'Ancien Régime era un po' il rappresentante di Dio sulla terra, il braccio temporale. La borghesia fu costretta pertanto a sedere a sinistra. Non v'è accordo invece sulla rilevanza di queste categorie nel mondo contemporaneo e qualche dubbio, a dire il vero, affacciava già Garnier Pagès nel Dictionnaire Politique del 1848, dove si chiedeva se destra e sinistra avevano ancora un significato al suo tempo e si era in piena rivoluzione quarantottesca. Sembra di poter stabilire, semplificando alquanto lo spettro delle posizioni culturali, che mentre nell'area latina e soprattutto francese quella distinzione seguita ad essere presa in seria considerazione, Per esempio in Francia si hanno almeno negli ultimi 20 anni due belle storie della destra, no? Una è quella piccola pubblicata dalle Presse Universitaire di Charles Petit-Fils, l'altra è lo splendido volume di René Raymond, la destra in Francia, di cui recentemente è uscita un'edizione più completa. E in Francia si hanno anche storie della sinistra, per esempio Georges Lefranc ha dedicato un volume alla evoluzione della sinistra francese, mentre disponiamo nell'edizione du Seuil del volume molto bello di Jean Touchard, La Gauche, che forse rimane il classico su questo argomento. Dicevo, nell'area latina questa distinzione seguita ad essere presa in seria considerazione, non a caso in Francia, che è la sede della la patria della grande rivoluzione, questa distinzione ancora turba le visioni dei politologi, ma anche degli storici, no? Per esempio nel dizionario di politica pubblicato da Seuil c'è la voce destra e sinistra. Nell'area anglosassone invece, compresa quella tedesca, ecco, si tende a ritenere la coppia nemica destra e sinistra ormai relegata nella soffitta della storia. Cito Landlexikon zur Politikwissenschaft del 1972, a cura di Axel Görlitz, che non riporta la voce destra e sinistra. E così il Kleines Politisches Wörterbuch della DDR, l'ultima edizione è del 78, che pure non riporta la voce destra e sinistra, mentre viene riportata la voce conservatorismo, che si designa una famiglia politica della destra, ma che non è tutta la destra. Destra e sinistra, si afferma, nell'area anglosassone, dopo la Prima Guerra Mondiale, non avrebbero più senso. Edward Shields, nello saggio Tradition del 1954, di cui recentemente è uscita un'edizione assai più ampliata, afferma che fascismo e bolscevismo hanno reso questa distinzione assai problematica. Hanno confuso simboli e valori e per la prima volta, scrive Shields, la proprietà privata si è potuta coniugare con antisemitismo, ineguaglianza, repressione delle libertà civili, mentre la welfare legislation si è coniugata con oligarchia politica, eliminazione delle libertà civili, eccetera. Addirittura di recente si è fatta recedere all'intero Ottocento l'irrilevanza di questa distinzione. Noel O'Sullivan, nel volume Fascism del 1983, scrive testualmente: l'intera tradizione politica dell'Europa moderna è così ambigua che etichette come sinistra e destra non significano più niente, servono solo a nascondere l'origine dei pericoli che incombono su di noi. Ma la posizione di O'Sullivan è estremamente radicale, basti pensare che per O'Sullivan Kant e gli scritti politici di Kant sono non una tappa della lunga marcia del fascismo, ma qualcosa che può imparentarsi col mondo delle idee e dei valori da cui anche il fascismo trasse alimento. Nell'area latina, a sostenere il perdurante senso e significato dell'opposizione destra e sinistra sembra essere rimasta la sola sinistra radicale, ovvero la sinistra tendenzialmente antisistema. Lo slogan preferito dai suoi esponenti infatti è quello ben noto: se qualcuno mette in dubbio l'esistenza di un'opposizione destra e sinistra, non bisogna avere alcun dubbio, quell'uomo è di destra, no? Ribaltando, si potrebbe insinuare che chi ripete con l'aria di saperla lunga questo adagio sicuramente è di sinistra, no? E tuttavia, al di là delle polemiche più o meno contingenti, si può osservare, almeno da chi non voglia buttare via il bambino assieme all'acqua del bagno, che la distinzione destra-sinistra è tuttora di limitata ma reale attualità, almeno sotto un duplice profilo, etico-politico l'uno, teorico-conoscitivo l'altro. Sotto il primo va rilevato che è essenziale alla democrazia liberale poliarchica legittimare sia la destra che la sinistra, giacché in questo tipo di governo il potere si lega alla responsabilità. La responsabilità deve giustificare il proprio operato dinanzi al corpo elettorale e quest'ultimo deve essere libero di punire o di premiare i suoi rappresentanti, conferendo il potere agli uni o agli altri, cioè di volta in volta alla destra o alla sinistra. Naturalmente si parla di una destra e di una sinistra rispettose delle regole del gioco, nel senso forte dell'espressione, cioè traducendo in termini di sociologia politica, di una destra e di una sinistra che competono per ottenere il voto del centro. Ma questo è un discorso che in questa sede si può soltanto accennare. Più importante invece è il secondo profilo, quello relativo all'utilità della distinzione sul piano teorico-conoscitivo. Destra e sinistra, per quanto riguarda, cioè una teoria generale della società moderna, capace quindi di individuare tendenze di fondo dell'agire collettivo. Sull'utilità di questa distinzione, io mi sono già intrattenuto in un volume di cui uscirà una seconda edizione presso l'editore Bertani, che si intitola appunto Destra e Sinistra, per un uso critico di due termini infuocati del linguaggio politico contemporaneo. In questo libro, sostanzialmente, ero venuto alla conclusione che è possibile, nonostante tutto, nonostante il parere di politologi come Raymond Aron, il quale scriveva «è impossibile elaborare una dottrina di destra comune ai controrivoluzionari, ai liberali, ai fautori di metodi non violenti, fascisti o cattolici, teorici del mercato o industriali desiderosi di integrare i lavoratori nell'impresa, discepoli di Saint-Simon che sognano grandi opere pubbliche e nostalgici della saggezza contadina non sono animati dagli stessi ricordi né nutrono le stesse speranze». Ecco, io credo invece, contrariamente ad Aron, che è possibile individuare un corpo, se non un corpo di dottrine comuni a tutta la destra, perlomeno un'anima. C'è un'intenzione profonda e sovente nascosta che caratterizza uomini e programmi talora molto distanti, sì da spiegare in ultima analisi la ragione per cui essi potrebbero venire assunti già nel linguaggio quotidiano sotto la stessa categoria etico-politica di destra. Quest'anima trova il suo simbolo privilegiato nella metafora dell'albero, che ben esprime il senso della fedeltà alle proprie radici naturali e spirituali, il bisogno di un fondamento stabile, l'ubi consistam, sottratto all'incessante divenire storico, una coscienza del determinismo che renda meno dolorosi i rovesci di fortuna. Lo slogan della destra potrebbe essere pertanto «nulla fuori e contro la tradizione», tutto nella e per la tradizione. Ciò significa che l'uomo di destra può credere nei valori della libertà individuale o al contrario nell'efficacia educativa della disciplina sociale. Può preferire l'agiatezza ad una povertà austera o far professione di catonismo. Adopero la categoria catonismo nel senso dei politologi americani, in particolare Barrington Murrenough. Può vedere nell'autorità un bene o un male sia pure minore, può Puoi saltare la personalità autonoma o riassorbirla tu cur nella vita collettiva. In ogni caso, libertà e autorità, benessere e austerità, indulgenza e severità vengono vissuti come valori secondari e strumentali, cioè da promuovere o rifiutare a seconda del contributo che possono dare alla salvaguardia della tradizione. L'intenzionalità invece della sinistra, ecco, l'avevo sintetizzata nella metafora della liberazione dalle catene. È molto importante questa metafora perché, ecco, attraverso un'analisi dei testi ho visto che ricorre non soltanto in Rousseau, ma ricorre in Marx, nel nostro Cattaneo. Ecco, non c'è quasi grande pensatore, sicuramente etichettabile a sinistra, che non ricorra all'immagine dell'uomo che si libera dalle catene del privilegio. Ora, definita in tal modo l'intenzionalità della destra, noi possiamo individuare effettivamente nella destra una serie di famiglie, famiglie che sono, ecco, semplificando alquanto il discorso, la famiglia tradizionalista, che vede nella tradizione la legislazione primitiva di cui parlava De Bonal, cioè la tradizione come archetipo, la famiglia che intende la tradizione non come un ordine increato di valori, ma come il riferimento ad un'epoca assiale nella storia di un paese o di una civiltà, per esempio Morin, la Sion Française, che in fondo, ecco, era, la cui teoria politica non era che una trasfigurazione di un ancien régime in gran parte immaginario, no? Ma non del tutto, no? O in Spagna, la tradizione della destra carlista, che ha come riferimento privilegiato Filippo II, ecco, il simbolo dell'Escuriale, eccetera. In una terza accezione, la tradizione può significare la fedeltà alla nazione in tutte le sue componenti storiche, no? Quello che Raoul Girardet, forse il maggiore studioso dei fenomeni nazionalisti, chiamava le nazionalismo de recomposition, il nazionalismo, ecco, di assembramento dei simboli, ecco, di cui è espressione, a mio avviso, abbastanza tipica, ecco, Balzac, no? In letteratura, ma soprattutto, ecco, tra 800 e 900, Maurice Barrès, no? Ecco, in Barrès cioè la Francia è veramente tutta la Francia, non Giovanna d'Arco o l'albero della federazione, ma Giovanna d'Arco e l'albero della federazione. Nei fascisti francesi degli anni 40 i due simboli si unificarono in una Giovanna d'Arco proletarizzata. Giovanna d'Arco sì, ma figlia dei contadini, quindi espressione, ecco, delle radici popolari della Francia. E naturalmente questo nazionalismo di ricomposizione trova ai giorni nostri, ecco, un portatore, ecco, di grande prestigio politico nella figura del generale De Gaulle, non? In una, a quanti gli chiedevano, ma perché il gollismo non è anticomunista, al tempo della resistenza, De Gaulle rispondeva, perché anche i comunisti sono Francia, non, ecco, non perché esprimono una visione, non perché sono portatori di ideali, ecco, universali, ma perché sono Francia anche loro, no? Anche loro hanno radici nell'humus francese. E Barrès, che era antisemita, dopo la Prima Guerra Mondiale scrisse un volume, Le famiglie spirituali della Francia, in cui esaltò il comportamento al fronte degli ebrei, perché anche gli ebrei appartenevano a questa grande famiglia francese. In un quinto significato, in un quarto significato la tradizione rinvia a quella che si potrebbe chiamare la comunità di destino, no? Cioè ad una sorta di etica tribale che esige la dedizione totale e incondizionata al gruppo di appartenenza. Non vi è verità e giustizia se non nella fedeltà assoluta alla tribù e ai suoi capi. La libertà si identifica con l'accettazione di legami ancestrali, con l'orgoglio dell'appartenenza ad un organismo politico che nella guerra spietata di tutti contro tutti può esigere la morte dei singoli nell'interesse supremo dell'insieme. E in questa accezione mi pare di poter ricomprendere l'uso che dell'uso politico che della tradizione fece in Germania il nazionalsocialismo. Ecco, non parlo per ora della etichetta che può appiccicarsi al fenomeno fascismo italiano. Mi limito a rilevare che queste distinzioni, ecco, l'individuazione della grande famiglia destra non ha senso, ecco, in periodi di routine, non ha senso nei periodi di normalità, quando i partiti politici, le correnti, i movimenti non tendono a disporsi lungo lo spartiacque destra e sinistra, ma tendono a privilegiare altri spartiacque. Spartiacque che possono essere costituiti da obiettivi di politica estera o di politica interna, e in ogni caso, come ho accennato in precedenza, tendono a convergere al centro, a competere per il centro. Quando si compete per il centro, le distinzioni destra e sinistra tendono a sfumare. Nel Congresso degli Stati Uniti d'America non esiste la distinzione destra e sinistra, anzi l'America è l'unico paese il cui Parlamento, chiamiamo così la Camera dei Rappresentanti, ha una destra costituita dai democratici e una sinistra costituita dai repubblicani, perché per tradizione i repubblicani, il grande vecchio partito, sedeva alla sinistra, per cui in America il partito che siede a destra tende a essere meno conservatore del partito che siede a sinistra, no? Dicevo, nei periodi, ecco, di normale amministrazione, da prendere sempre in senso relativo, ecco, queste distinzioni sfumano. Nei periodi invece cruciali, quando è in gioco il destino della comunità politica, queste distinzioni riaffiorano. E allora questi due poli fungono quasi da calamita, per cui improvvisamente vediamo movimenti diversi, uomini diversi, che tendono a convergere, no? Anche se ulteriori traumi portano di nuovo a delle disgregazioni di queste coalizioni, no? E mi pare che la storia europea, e in particolare la storia del fascismo, per le ragioni che diremo, sia proprio una riprova, ecco, di questo convergere di uomini, di correnti diverse, così militanti in formazioni in apparenza molto lontane, ecco, che dinanzi a grandi traumi collettivi tendono ad aggregarsi, no? Nella mia classificazione il fascismo è un movimento politico portatore di una ideologia che sta a destra, quindi la risposta alla domanda iniziale credo che sia inequivocabile: il fascismo è a destra, non è a sinistra. E tuttavia bisogna specificare molto meglio di quanto non abbia fatto io stesso nel saggio che ho appena ricordato il senso esatto dello stare a destra nel caso del fascismo. Si corre il rischio, infatti, in questo campo minato, di ripercorrere i sentieri polemici con punte da guerra civile ancora battuti da tanta parte della storiografia italiana e forse anche francese. Ricordavo ieri sera a tavola, ecco, quel piccolo caso De Felice che sta scoppiando in Francia ai nostri giorni, ecco, in occasione della pubblicazione del volume di Zev Sternel, Ni Droit Ni Gauche, pubblicato da Seyenot. Come ampiamente noto, le analisi più avanzate e scaltrite del fenomeno fascista, elaborate da storici di professione o da scienziati della politica, contestano, ridimensionano o problematizzano fortemente le caratteristiche di destra del fascismo, disposte tutt'al più ad attribuire con convinzione tale etichetta al nazismo. È la convinzione di George Moss, ripresa da De Felice nel 75 nell'intervista sul fascismo. Anch'io, diceva De Felice a Michael Lydon, vedo nel fascismo una manifestazione di quel totalitarismo di sinistra di cui parla Talmon. Il nazismo invece si riallaccia a un totalitarismo di destra e si rifà quindi a tutt'altro discorso che quello di Moss della nazionalizzazione delle masse. Il discorso di Talmon è estremamente stimolante, è una delle chiavi per capire le ragioni del fascismo. E inoltre sul versante della scienza politica, ecco, contestano decisamente l'etichettabilità del fascismo a destra, soprattutto i politologi americani, tra i quali ricordo in questa sede almeno James Gregor ed Eugene Weber. No? James Gregor nei suoi volumi e in un articolo apparso su una rivista che in Italia è poco conosciuta, perché è una rivista senz'altro etichettabile a destra, ma non di meno è una rivista molto interessante, non fosse altro per le firme. Una relazione del professor Cofrancesco che è venuto ieri e che è professore a Genova, e lo prego di cominciare la sua relazione, che ci porta nel problema del fascismo tra destra e sinistra, anche dal punto di vista della filosofia, così abbiamo anche un contributo dopo quel interessante contributo che ieri è caduto un po' nel vuoto perché avevamo poco tempo, del collega Hinz. Dov'è Hinz? Non c'è oggi? Che è riuscita a collezionare in questi anni, cioè la rivista Intervento. Era la rivista pubblicata dalla Fondazione Volpe. Volpe, voi sapete, è lo storico del fascismo, il maggiore storico del fascismo. Il figlio, l'ingegnere Giovanni Volpe, ha fondato un istituto proprio per mantenere viva la memoria del padre. L'istituto pubblica la rivista, almeno pubblicava fino a poco tempo fa, perché l'ingegnere Volpe è morto alcuni mesi or sono, la rivista Intervento, e sulla rivista Intervento hanno scritto dei grossi nomi della storiografia sul fascismo, tra cui Eugene Weber, che vi ha collaborato almeno nei primi 3 anni, lo stesso Gregor, Eisermann e tutto quanto il gruppo del nuovo conservatorismo tedesco contemporaneo. In un intervento del 75 scriveva appunto James Gregor, che forse è il più radicale rappresentante di questa tendenza: il fascismo, mi pare si possa stabilire un collegamento tra fascismo e filosofia della modernizzazione, un movimento di modernizzazione per raggiungere i suoi obiettivi ha bisogno di un organismo centralizzato per la mobilitazione, la dislocazione e la direzione delle risorse. Ed ecco che compaiono lo Stato totalitario e il partito unico autoritario. Non è un caso che avversari dichiarati del fascismo fossero le nazioni ricche e plutocratiche. il carattere rivoluzionario e rivoluzionario progressista, quindi di sinistra, del fascismo non può essere messo in dubbio. Andrei addirittura oltre. Il fascismo è stato il primo rappresentante di quelle rivoluzioni che oggi vengono definite rivoluzioni progressiste. Anche l'Unione Sovietica, più o meno nello stesso periodo, assunse caratteri simili. Gli aspetti internazionalistici, libertari, distributivi e democratici del marxismo classico si risolsero in aspetti nazionalisti, autoritari, produttivistici ed elitistici di un fascismo incoerente e incongruente. Tanto nella Russia di Stalin quanto nell'Italia fascista vennero eliminati esponenti politici di opposizione legati alla socialdemocrazia e al bolscevismo. Afferma Gregor che non il nazionalsocialismo può essere considerato un movimento politico affine al fascismo, ma semmai il socialismo sovietico, e dice Weber, dice Gregor, soprattutto nel volume sulla Radical Persuasion, soprattutto il socialismo africano. Ecco, l'attuale socialismo africano, ecco, secondo questo studioso, avrebbe tutti i caratteri del fascismo classico. La stessa posizione, ecco, caratterizza gli scritti di Eugene Weber, che è forse uno dei maggiori studiosi della destra europea. Weber sottolinea anche lui l'affinità tra il comunismo e il fascismo italiano, e forse in questi ultimi tempi chi ha portato la tesi ad esiti francamente non condividibili è un allievo di Gregor, cioè Joe, che ha collaborato anch'egli ad intervento e che è autore forse della più completa biografia di Mussolini, ecco, scritta in questi ultimi tempi nel mondo anglosassone. Anche sul versante della storia delle idee c'è chi contesta radicalmente, ecco, l'etichettabilità del fascismo a destra. Ho ricordato, ecco, di recente, poco fa, Zev Sternel, e il libro di Zev Sternel ha un titolo significativo: Ni droit ni gauche. Il fascismo non era né destra né sinistra, andava oltre la destra e la sinistra, ma in sostanza per Sternel il fascismo è a sinistra, perché in questo volume Sternel scrive che il fascismo va legato soprattutto alla crisi del marxismo. Anzi, arriva a dire in un capitolo che il fascismo è in un certo senso un capitolo della storia del revisionismo marxista, no? Per cui il legame che per Sternel sarebbe indubbio, ma che desta naturalmente qualche perplessità, tra il fascismo francese, per esempio, e il revisionismo marxista di un De Man. Ecco, è un punto su cui Sternel insiste molto, no? E un altro studioso che non ha dubbi nell'etichettare il fascismo a sinistra è il già ricordato O'Sullivan, nel volume dell'83 sul fascismo. Emilio Gentile, in un brillante, come sempre, articolo da lui scritto nel 79, ecco, può considerarsi il fascismo un fenomeno rivoluzionario, ecco, afferma decisamente il carattere rivoluzionario del fascismo, lo distingue dal nazismo e dal comunismo, però soprattutto in riferimento alla diversità dei miti. Afferma Gentile che il fascismo concepiva lo Stato non come strumento al servizio della razza o della lotta di classe, ma come fine, forma di vita primaria, assoluta e insopprimibile. Questa analisi corrisponde, a ben riflettere, ad un atteggiamento di maggiore disponibilità alle ragioni dell'altro, sottolineo l'altro, anche quando questo è portatore di valori estranei e lontani. Nel caso di De Felice e dello stesso Gentile, essa testimonia non una qualche segreta connivenza nei confronti del fascismo, ma al contrario una presa di distanza radicale, una guarigione dalla malattia che consente una visione più pacata e wertfrei del fascismo. Direi che lungi dall'essere filofascista, l'opera monumentale di De Felice sul fascismo rappresenta a tutt'oggi, naturalmente assieme ad altre, quanto di più lontano ci sia dall'ideologia fascista, no? Mentre altre opere così più passionali sul fascismo, specialmente quelle che vengono, tanto per non rimanere nel vago, dalla scuola storiografica torinese, ecco, evidenziano un'assai maggiore vicinanza rispetto ad una concezione della cultura come impegno, come militanza, che fu in definitiva quella del fascismo di Gentile e dei gentiliani. Questa maggiore disponibilità si è tradotta in un'attenzione assolutamente inconsueta in passato per le testimonianze del fascismo e forse più per quelle immediate, spontanee, a caldo dei militanti e dei quadri intermedi che per i tentativi accademici di elaborare dottrine sistematiche del movimento. Per esempio l'attenzione di De Felice per politici militanti, per intellettuali militanti come Edgardo Sulis, il gruppo Avamposti per la Nuova Civiltà, no? Il gruppo che fa capo all'Universale di Berto Ricci, no? Più che invece alle espressioni più accademiche del fascismo, ad esempio la gentiliana o la volpiana, che erano legate indubbiamente alla vecchia cultura liberale conservatrice. Siffatto lavoro di scandaglio ha fatto affiorare atteggiamenti e stati d'animo sepolti ormai nella memoria collettiva. Ha riportato alla luce soprattutto la comune diffusa volontà, caratteristica di tutti i fascisti o quasi, perché vedremo che c'erano delle eccezioni, di superare la distinzione destra-sinistra, relegandola appunto tra i rottami della storia. Tale volontà è particolarmente forte nel fascismo francese, anche perché in Francia, lo si è ricordato, la discriminante destra e sinistra è rimasta sempre al centro della riflessione etico-politica. L'Ordre Nouveau dell'ottobre 1933, non è che l'Ordre Nouveau sia fascista, ecco, nel senso così, nel senso classico del termine, però indubbiamente l'Ordre Nouveau fa parte di quella cultura politica che prepara il terreno alle rielaborazioni dottrinali del collaborazionismo. Nell'ottobre del 1933 l'Ordre Nouveau, ecco, aveva dedicato un numero della rivista, il gruppo dell'Ordre Nouveau aveva dedicato un numero della rivista al tema Ni droit ni gauche, no? E con il titolo del volume di Sternel. Je suis partout, un gruppo e una rivista di estrema destra, nel 26 marzo del 1932 aveva anch'esso pubblicato un'inchiesta dal titolo Droit gauche, autant de mots de sourmet sans signification. Destra-sinistra, parole ormai senza alcun significato, no? E François Perrou, che è il grande economista contemporaneo che nel 40 era molto vicino a questi ambienti fascisti, pubblica nel 40 un volume intitolato De mythe hitlérienne à l'Europe allemande, un grosso volume di 400 pagine, che è un'analisi dell'ideologia nazionalsocialista. dal punto di vista di un cattolico vicino al gruppo di Esprima, più che Mounier e gli altri, ecco, sensibile alle ragioni del fascismo e del nazionalsocialismo. Ecco, in questo volume, tra l'altro molto importante, poco citato, molto importante perché c'è un'analisi piuttosto elaborata di Smith, di Sombart, degli economisti e dei giuristi del nazionalsocialismo. Perù scriveva che questa distinzione destra-sinistra non ha molta importanza, che il fascismo era al di là della destra e della sinistra e che semmai di destra erano i liberali da una parte e i comunisti, i bolscevichi, dall'altra. Cito da pagina 154, per molti borghesi come per molti socialisti la nazione è un grande affare, una grande azienda, solo che per gli uni e gli altri varia la composizione del consiglio di amministrazione. Dicevo che in Italia, ecco, la distinzione destra e sinistra dai fascisti era ritenuta ormai priva di senso. Nel 24, ad esempio, Sergio Pannunzio, che aveva fatto parte del sindacalismo rivoluzionario, poi era passato al fascismo, scriveva: il fascismo sconcerta i rivoluzionari conservatori, giacché esso è un fatto nuovo e originalissimo, è una grande conservazione rivoluzionaria. Persino Gioacchino Volpe, che era tra i fascisti il più legato alla tradizione liberal nazionale, sempre in quest'anno, il 24, scriveva: l'Italia che va innegabilmente a sinistra, la plebe diventa popolo, le masse si elevano e si individualizzano, e va innegabilmente a destra, cioè cerca, esprime in alto una più energica forza coordinatrice e conduttrice, no? E questo motivo del superamento, ecco, noi lo ritroviamo in quello che Bobbio giustamente considera il testo più organico della dottrina fascista italiana, e cioè quel sistema di dottrina fascista scritto da Antonio Canepa nel 1937 in tre volumi. La figura di Antonio Canepa è una figura tipicamente italiana e di grandissimo interesse, perché Canepa fu fascista di sinistra, molto vicino al corporativismo, dopo la guerra aderì al movimento indipendentista siciliano, fece parte della corrente che voleva la Sicilia il 49esimo Stato Unito d'America, venne fatto fuori dalla vecchia mafia nella strage di Randazzo e sepolto di notte, ecco, per non dare nell'occhio, nel cimitero di Giarre, ecco, fatti raccontati da Michele Pantaleone nella sua Storia della mafia. Canepa scrisse l'unica dottrina fascista sistematica, soprattutto dal punto di vista delle fonti, no? Ecco, si preoccupò molto di reperire tutte le possibili fonti italiane e straniere del fascismo e soprattutto di collegare il fascismo ad altre rivoluzioni o comunque ad altri movimenti politici innovatori, come, ecco, in questi anni, ecco, sembrava il New Deal in America o l'economia keynesiana, no? E direi che, ecco, i riferimenti, ecco, di questi tre volumi sono veramente di una ricchezza straordinaria, no? Ecco, nel terzo volume Canepa scriveva: a ben riflettere tutte le rivoluzioni appaiono sotto un certo angolo visuale come reazioni contro situazioni precedenti. La rivoluzione russa reagì in un primo tempo contro l'assolutismo zarista, quella francese contro l'onnipotenza e i privilegi dell'aristocrazia, ma da queste primitive fasi di reazione i grandi movimenti sociali sviluppano, e perciò meritano il nome di rivoluzioni, motivi ideali propri il cui aspetto creativo e universale supera gli aspetti contingenti del movimento. Se non che, ecco, citare Canepa è un po' fare una citazione un po' facile, in quanto si tratta di un esponente dell'Accademia. Ma vediamo quanto scriveva invece un autore che non era esponente dell'Accademia, e anzi era esponente di una scuola che in un certo senso può considerarsi il cuore del fascismo, il cuore passionale del fascismo. Cioè l'esponente della scuola di mistica fascista, Sandro Italico Mussolini, Italo Lunelli, che scriveva nel 1942 un volume abbastanza ambizioso dal punto di vista teorico, L'Italia e la Germania davanti all'Europa, e in questo volume, ecco, esponeva quella che era la visione dei giovani del fascismo, cioè la visione dei giovani che non avevano conosciuto, ecco, il vecchio mondo liberale, non avevano quasi più alcun contatto con le grandi democrazie, e che tentavano di formarsi un loro concetto rivoluzionario di ciò che potesse essere il fascismo. Ebbene, anche nel volume di Lunelli noi troviamo il leitmotiv del superamento della distinzione. Il fascismo non è né di destra né di sinistra. Del regime assoluto accolse il concetto autoritario, ma negò quello di una classe dirigente autoritaria. Della democrazia accolse il concetto di regime di popolo, ma negò il concetto della massa che guida se stessa. Del socialismo accolse il concetto dell'amore e dell'elevazione del popolo, ma negò che questa elevazione possa attuarsi esclusivamente con miglioramenti economici. Del bolscevismo accolse il concetto di giustizia, ma negò che questa si attui distruggendo le classi e facendo dello Stato non un consorzio di individui che umanamente pensano, sentono e vivono, ma un'organizzazione schiavista simile a quella delle api o delle formiche, distruggendo la vita per creare lo Stato. È singolare, non l'avevo mai trovato leggendo la letteratura fascista, questa distinzione tra socialismo e bolscevismo proprio in un esponente del fascismo giovanile. Va rilevato tuttavia che gli stessi ideologi teorici del fascismo, soprattutto agli inizi, tennero a precisare che il fascismo, sì, non è né di destra né di sinistra, ma sostanzialmente è destra. È una destra che va oltre la destra e la sinistra. È una destra rivoluzionaria. È una destra diversa dalle altre destre, no? E mi pare che questa posizione sia, è il caso di dire, autorevolmente espressa proprio dal fondatore del fascismo, da Mussolini, in un articolo che l'amico Valiani ricordava del 25 febbraio del 1922, intitolato Da che parte va il mondo, no? Ecco, questo titolo è abbastanza significativo perché, ecco, nell'Italia di questi anni è una domanda che ricorre sempre. Ecco, c'è il titolo di uno scritto di Benedetto Croce intitolato Da che parte va il mondo, un titolo di uno scritto di Gentile, soprattutto c'è un'inchiesta di Arcangelo Ghisleri, vecchio esponente della cultura politica repubblicana, intitolata Dove va il mondo? Inchiesta tra scrittori italiani, i cui risultati furono poi ripubblicati dallo stesso Ghisleri nel 1923. No? E il volume è molto importante perché è uno dei pochi volumi in cui fascisti e antifascisti dicono la loro. C'era stato già il precedente di Rodolfo Mondolfo, la collana. E con, nella collana di Cappelli, se non vado errato. Cappelli. Ecco, nel volumetto di Ghisleri, ecco, gli interventi erano più passionali rispetto a quelli del volume di Mondolfo, dove già c'era un tentativo di porsi a distanza storica dal fenomeno recentissimo del fascismo. Ebbene, Mussolini in questi anni in cui ci si chiede da che parte va il mondo non aveva nessuna esitazione. Il fascismo sta a destra, ma destra non significa, scriveva, necessariamente stasi o conservazione perpetua, ma significa senso della realtà e possibilità storica, quindi misura, equilibrio, facoltà critica ed opposizione inesorabile ai salti nel buio. E nell'inchiesta che abbiamo ricordato, ecco, il Sergio Pannunzio diceva, apertis verbis, il mondo va a destra, si vive in un periodo di transizione in cui si sente, pena la morte, il bisogno assoluto dell'ordine, di qualsiasi ordine, dell'ordine in sé, meglio il peggiore dei governi che in nessun governo. Il bisogno dell'ordine oggi si esplica ed esplode in forme assolute, anche paradossali. È l'istinto vitale della società che vuole vivere e non vuole perire. Direi che questa caratterizzazione del fascismo a destra corrisponde non solo al senso comune, l'uomo della strada, non importa se l'età, non importa la militanza a destra o a sinistra, se interrogato sul dove porre il fascismo risponderà senz'altro il fascismo sta a destra, no? Ma questa caratterizzazione corrisponde in parte anche a vecchie e per certi aspetti obsolete ma ancora solide per altri aspetti e persuasive analisi svolte negli anni 50 da studiosi come Raymond Aron e Talcott Parsons. No? Raymond Aron, in uno scritto del 50, ecco, non aveva alcuna esitazione a collocare il fascismo a destra. È così possibile capire, scriveva, in quali circostanze una rivoluzione di questo tipo può avere successo. La situazione che dà origine al fascismo è questa. Conflitti sociali o conflitti all'interno dell'elite causano il diffondersi della convinzione che un gruppo unico dovrebbe stabilire un controllo assoluto. Al tempo stesso, la rivoluzione sociale prospettata dall'ideologia della società senza classi terrorizza tutti i gruppi salvo gli operai. In tali circostanze un gruppo di leader di massa offre una via d'uscita. Imporre una disciplina all'elite senza cambiare seriamente le condizioni di vita della maggioranza. E pertanto rivoluzione sì, ma conservatrice, non nel senso vostro tedesco della rivoluzione conservatrice, ma nel senso così banale della rivoluzione che cambia tutto per non cambiare niente, cambia i quadri politici per non porre mano alla struttura sociale. Ed era anche l'analisi di Talcott Parsons nello scritto Alcuni aspetti sociologici dei movimenti fascisti del 1954, ecco, ripubblicato nel volume collettaneo, sempre con scritti di Talcott Parsons del 1975. Ecco, per Talcott Parsons il fascismo può definirsi un fondamentalismo integrale. Si tratta di una reazione ai processi di modernizzazione prevalenti in quelle aree della società in cui gli elementi tradizionali hanno costituito i punti istituzionalizzati di riferimento per l'orientamento. In sostanza, per Parsons, il fascismo è una reazione ad una situazione anomica. In questo caso, l'insicurezza, nel caso del fascismo, si manifesta come sentimento di paura per la minaccia di valori tradizionali. La reazione tipica è quella di un fondamentalismo integrale e si sviluppa in forme aggressive verso i simboli della razionalizzazione e della emancipazione ritenuti sovversivi dei valori. Nello stesso tempo si è avuta naturalmente un'affermazione estremistica di lealtà verso questi valori tradizionali. La disponibilità di definizioni approssimative e caricaturali della situazione e di simboli estremistici ha grandemente facilitato questo tipo di strutturazione. L'uso di slogan come quello del capitalismo ha reso possibile un'esagerazione della corruzione dell'intera società moderna via via che essa si allontanava dai buoni vecchi valori. Se non vado errato, mi pare che questa analisi di Parsons sia la trascrizione avant lettre di quella che sarà un'analisi più calata sul versante filosofico epocale di Ernst Nolte nei tre volti del fascismo. Se non che sia Aron che Parsons non hanno esaminato l'ideologia fascista, ma solo cercato di spiegare la genesi politica e sociale dei movimenti e del regime. Ora, a mio avviso, pur tenendo d'occhio i momenti strutturali del fascismo, occorre non abbandonare la strada dell'analisi degli elaborati culturali, proprio per la complessa e tante volte ribadita ormai dialettica tra l'agire politico e il suo senso intenzionato, tra il dato di fatto e il dato di coscienza. In Italia l'ideologia fascista è stata oggetto di ricerca da parte degli storici, raramente da parte dei filosofi e ancor più raramente da parte dei politologi. E le conclusioni a cui questi ultimi filosofi e scienziati della politica sono pervenuti non lasciano adito a dubbi. Primo, il fascismo non elaborò mai un corpus dottrinale compiuto e coerente. Secondo, le cosiddette idee fasciste non sono originali né degne di attenzione, nel senso almeno che non gettano alcuna luce sui fatti politici. Terzo, quelle poche e sconnesse idee che gli intellettuali fascisti riuscirono a mettere insieme esprimono una Weltanschauung inequivocabilmente di destra. Scelgo soltanto due esempi di questo approccio e dichiaro subito che non sono esempi di comodo, perché almeno nel caso di Bobbio si tratta di uno studioso di eccezionale statura intellettuale, di cui chi vi parla si è sempre considerato un umile discepolo, forse come è apparso già nella mania delle ripartizioni, con netta preferenza verso le tripartizioni che caratterizza questo mio intervento di oggi. Norberto Bobbio si è occupato una sola volta dell'ideologia fascista, ecco, nei quaderni della FIAP, nei lontani anni 70, e ha scritto sull'ideologia fascista 50 pagine, che a me sembrano molto belle, forse tra le cose migliori che ci siano in Italia su questo argomento, una analisi in cui le idee fasciste, come è nello stile di Bobbio e di quanti, come il sottoscritto, si richiamano alla grande distinzione di David Hume tra fatti e valori, dicevo, in questa analisi le idee vengono trattate come fatti e l'analisi delle idee viene svolta Wertfrei. Ecco, in questo senso direi che siamo tutti, ecco, tenacemente, testardamente weberiani. Un conto sono i fatti, un conto sono i valori. E se noi esaminiamo i valori, dobbiamo esaminare i valori come fatti, no? Ecco, solo che non di questo intervento di Bobbio vorrei parlare oggi, ma di un articolo molto interessante apparso sulla Stampa nel 1982, intitolato Due estremismi, una polemica, tentati dalla destra. Non si possono abolire i contrapposti schieramenti politici, no? In questo articolo che cosa dice? In sostanza Bobbio, parlando di un convegno che si era svolto a Cuneo in quei mesi sulla nuova destra e il nuovo fascismo, dice Bobbio che ciò che caratterizza l'ideologia fascista, a parte i vari e mutevoli elementi, è l'ineguaglianza. Ecco, tutti i fascisti sono d'accordo sul fatto che l'ineguaglianza è un fatto e un valore. Ecco, gli uomini non sono soltanto ineguali, ma è giusto, è bello, è buono, è bene che gli uomini siano ineguali. E Bobbio vede in Nietzsche il punto di riferimento dei fascisti, almeno di questi aspetti dell'ideologia fascista. Ecco, Bobbio non è così ingenuo da fare di Nietzsche un precursore tout court del fascismo. Dice Bobbio, Nietzsche, e va specificato, Nietzsche è il riferimento privilegiato dell'ideologia fascista, Rousseau è il riferimento naturalmente privilegiato della ideologia della sinistra, di tutta la sinistra in tutte le sue componenti storiche. Ciò che a mio avviso è azzardato dire, no? Ma per ragioni che sarebbe troppo lungo enumerare. Dice Bobbio, Nietzsche, al contrario di Rousseau, parte dalla considerazione che gli uomini sono per natura diseguali e soltanto la civiltà, con la sua morale del gregge, di cui è massimamente responsabile il cristianesimo e di cui sono manifestazioni al tempo presente la democrazia e il socialismo, li ha resi ingiustamente uguali. Dice Bobbio, comunque la si voglia rigirare, ecco, è chiaro che nella destra ci sono i liberali, ci può essere una destra liberale, ci può essere una destra libertaria, però destra libertaria e destra autoritaria e destra autorità e totalitaria condividono la credenza nella ineguaglianza degli uomini come fatto e come valore. L'altro intervento non di comodo a cui, ecco, mi riferisco in questa relazione è quello di una giovane studiosa collaboratrice di Franco Ferrarese, Anna Elisabetta Galeotti, che in un volume uscito di recente dall'editore Feltrinelli, intitolato La destra radicale, 1984, ritorna su questi temi di Bobbio e anche la Galeotti non ha nessuna esitazione nel definire il fascismo come un'ideologia di destra e nel fare, ecco, della ineguaglianza la caratteristica principale di tutte le ideologie di destra. Solo che nella Galeotti c'è una variante. E la variante è questa. Cioè non si deve tanto parlare di inegualitarismo quanto di gerarchia. Cioè, perché, dice la Galeotti, in fondo inegualitarie possono essere anche ideologie che non hanno nulla a che vedere col fascismo. Ad esempio il liberalismo. Il liberalismo non si è mai fondato sul presupposto, ecco, che gli uomini debbono essere tutti uguali, che il potere politico deve renderli tutti uguali, no? Ma essenza dell'ideologia liberale è, quella che è quello che potremmo definire il sistema delle ineguaglianze mobili, cioè di una società aperta, il titolo ormai classico del volume di Popper, e quindi di una società che non solidifica mai le ineguaglianze di posizione, di status, di potere, di influenza, ma le tiene aperte, no? L'eguaglianza da realizzare, scrive la Galeotti nel caso della sinistra, può essere eguaglianza di fronte alla legge, eguaglianza di dignità, eguaglianza politica, di opportunità economica, eccetera. La gerarchia può essere quella tradizionale, di ceto, fondata sulla stirpe o fondata sul censo, sul merito o sulla razza. In termini sintetici, eguaglianza significa riconoscimento di uno o più aspetti relativamente uguali ai quali gli individui, indipendentemente da tutte le altre diversità, sono uguali e in base ai quali hanno titolo a uguale trattamento, mentre gerarchia significa l'individuazione di una specifica superiorità di alcuni che, al di là di possibili aspetti comuni fra gli uomini e fra le donne, ecco, richiede un trattamento differenziato. Nel conto delle differenze e delle eguaglianze fra gli esseri umani entrano in gioco atteggiamenti antropologici, approcci metodologici qualitativamente diversi nell'uno e nell'altro caso. Nelle ideologie della destra le differenze fra gli esseri umani sono costitutive dell'individualità concreta, che è inscindibile dagli attributi specifici e non è ipotizzabile astrattamente come modello di uomo e di donna. Da ciò il rilevamento di una differenza, razza, stirpe, sesso, non comporta unicamente uno specifico trattamento in relazione a quell'aspetto, ma il conferimento di uno status complessivo alla classe degli individui portatori della differenza stessa, status che definisce il posto appropriato nella gerarchia sociale. È chiaro che in questa maniera la Galeotti ritiene di poter rendere utile la sua distinzione destra e sinistra anche nel caso del liberalismo, perché in effetti, se ci pensiamo bene, nel caso del liberalismo, ecco, l'impostazione di Bobbio, ecco, lasciava adito a molte perplessità, no? Ecco, ricordo che io stesso avevo, dopo aver letto questo articolo, mi ero affrettato a scrivere a Bobbio dicendogli: guarda che tu non risolvi il grosso problema dell'ideologia liberale, nella tua ripartizione l'ideologia liberale non trova spazio. Mentre nel caso della Galeotti l'ideologia liberale, ecco, trova senso all'interno di una famiglia ideologica che non è quella di destra, no? Anche se non sempre il liberalismo può considerarsi a sinistra, perlomeno però la Galeotti può stabilire che il liberalismo sicuramente non è di destra, perché sì, ci sono le ineguaglianze, ma non c'è la gerarchia. Ecco, devo dire che però il guaio dell'argomento è che non trova senso e collocazione il liberalismo all'interno di questa classificazione concettuale, ma non trova più senso proprio il fascismo, no? E ho l'impressione che lo stesso uso del termine ineguaglianza non sia poi così privo di connotazioni valutative. Cioè, a me sembra, in altre parole, che sia Bobbio che la Galeotti, sottolineando il termine ineguaglianza, sottolineano qualcosa che nel fascismo non c'era. A mio avviso il termine avalutativo non è ineguaglianza, ma diversità, che è una cosa diversa. Due quadri, un quadro di Raffaello e un quadro di Michelangelo, sono diversi, ma non sono ineguali. Nonna. Due pugili, uno vince, l'altro va a KO, sono ineguali. Uno è più forte dell'altro. No? A mio avviso, ciò che il fascismo e il nazismo privilegia non è tanto l'ineguaglianza, quanto la diversità. E allora, se questo è vero, ecco, nel concetto di tradizione, lasciamo stare per il momento il nazismo tedesco, nel concetto di tradizione tipico del fascismo italiano, non sta tanto l'ineguaglianza quanto qualche altra cosa. E la riprova in termini un po' rozzamente popperiani, ecco, di questa mia analisi, è costituita proprio dallo scritto di Lunelli, che citavo, Italia e Germania di fronte all'Europa, pagine della nostra fede, in cui Lunelli, come molti altri fascisti, ricordo tra gli altri il volume di Cantalupo, recensito da Volpe sul Corriere della Sera, gli scritti di Cilio Petrone, sente il bisogno di fare i conti con quella che si chiama la teoria elitistica della politica. Cioè di fare i conti con Mosca, Pareto, Michels, eccetera, e stabilire in che misura Mosca, Pareto, Michels, eccetera, ecco, possono costituire dei punti di riferimento del fascismo. Ebbene, quello che fa perlomeno pensare è che la risposta di Lunelli è negativa. Mosca, Pareto, Michels col fascismo non c'entrano niente. Ecco, il concetto di classe dirigente non è un concetto fascista. Ecco, sembra, la cosa fa un po' trasalire alla luce di quello che conoscevamo nelle trattazioni ormai classiche dell'ideologia fascista. Scrive Lunelli, il fascismo dovrà avvicinarsi sempre più al popolo, essere sempre più popolo. Respingiamo l'idea di una classe dirigente ereditaria e aristocratica perché sappiamo che l'ereditarietà è un'utopia, quasi sempre smentita dalla storia, benché non ancora sradicata dagli animi. E qui Michels, Pareto, Mosca vanno ancora bene, però aggiungeva Lunelli, ma non dobbiamo dire neppure classe dirigente, perché una classe dirigente il fascismo non la deve formare. Dobbiamo dire quadri dirigenti, perché essi siano sempre aperti a nuove forze, attingano sempre a quell'immensa riserva di genialità, di caratteri e di valori che è il popolo italiano. Questo si dovrebbe fare e niente altro. Ecco, non c'è il tempo per leggere altre pagine, sempre su questo problema, ecco, nella relazione citerò ampiamente la posizione di Icilio Petrone sull'argomento. È difficile sottoscrivere queste analisi senza beneficio di inventario, perché nonostante tutto si ha, ripeto, la sensazione che il fascismo debba etichettarsi a destra, ma forse non principalmente per le ragioni addotte da Bobbio e dalla Galeotti. Coloro che hanno una qualche dimestichezza con i testi fascisti sono portati, insomma, a riandare con la mente a certe formulazioni della teoria aristocratica che fanno pensare ad un elitismo che non è quello democratico liberale, ma neppure quello conservatore, gerarchico, nel senso della Galeotti. No? E allora in quale significato del termine destra, ecco, possiamo collocare il fascismo a destra? Ecco, a mio avviso, non nel significato della ineguaglianza e della gerarchia. Chi ha visto molto acutamente questo problema, e mi avvio alla conclusione, è un giovane scienziato politico italiano, forse il più intelligente tra i direttori della rivista italiana di scienza politica, cioè Mario Stoppino. Uno studioso il cui contributo a temi cruciali della scienza politica e dell'analisi dei fenomeni totalitari è tanto profondo quanto ignorato dai mass media culturali. Nell'articolo, a mio avviso notevole, apparso sulla rivista Il Politico nel dicembre del 1978, intitolato La funzione politica delle credenze ideologiche, Stoppino scrive che la funzione politica delle credenze ideologiche è una funzione di integrazione politica. Per integrazione politica bisogna intendere uno stato di congruenza o di prossimità tra gli atteggiamenti politici dei dominati e quelli dei dominanti. La congruenza è data dal grado in cui certe idee e valori politici sono condivisi da dominanti e dominati, la prossimità dal contenuto delle idee e dei valori politici condivisi, in particolare dalla rappresentazione-prescrizione che vi si fa dei dominanti e dei dominati nella direzione della loro assimilazione o identificazione oppure in quella della loro distinzione o separazione. E Stoppino, cerco di riassumere quanto più brevemente possibile un discorso non facilissimo, distingue un'integrazione politica debole, quella che prevale nelle società tradizionali, e un'integrazione politica forte, prevalente nelle società industriali e modernizzanti. Per quanto riguarda la raffigurazione dei rapporti fra chi comanda e chi obbedisce, l'integrazione politica debole è caratterizzata dalla separazione, cioè i dominanti sono separati dai dominati e quindi la gerarchia. No? Per quanto riguarda l'integrazione politica forte, la raffigurazione dei rapporti tra chi comanda e chi obbedisce, nell'integrazione politica forte è caratterizzata dalla identificazione. Cioè chi comanda è come chi obbedisce, chi comanda e chi obbedisce sono la stessa persona. Per quanto riguarda la forma della razionalizzazione, ecco, nell'integrazione politica debole noi abbiamo un ancoraggio ad un valore comune dei diversi interessi di chi comanda e di chi obbedisce. Il diritto divino dei re, la natura in una società schiavista. Per quanto riguarda l'integrazione politica forte, abbiamo la generalizzazione o universalizzazione degli interessi dei detentori del potere, nazionalismo radicale, democraticismo, fascismo, eccetera. Ecco, in questo senso, ecco, Stoppino ritiene di poter stabilire un effettivo collegamento tra democrazia e tra democrazia, almeno nelle sue forme radicali, e fascismo, sia pure ricorrendo alla distinzione generalizzazione universalizzazione. La distinzione generalizzazione universalizzazione va riportata all'identità di interessi, all'identificazione che coinvolge soltanto i membri di un gruppo chiuso e i loro capi, mentre la universalizzazione va riportata, diciamo, ad un piano di Gesellschaft, cioè sono tutti potenzialmente membri, ecco, del gruppo, sono tutti potenzialmente portatori di valori, di interessi e di diritti, no? Ecco, ora, se questo è vero, a me sembra, e mi avvio veramente alla conclusione ecco, ripromettendomi naturalmente di ritornare su questo o quel tema nel corso del dibattito, se questo è vero, ecco, il fascismo italiano almeno va considerato di destra in quanto il suo riferimento privilegiato, ecco, non è, e qui adopero i termini di Tönnies ripresi poi da Weber nel senso veramente forte, ecco, cioè non è la Gemeinschaft, non è la Gesellschaft, non è la società il riferimento privilegiato del fascismo, ma è la Gemeinschaft, è la collettività nazionale, cioè la lealtà, ecco, è indirizzata alla collettività nazionale. Non ci sono valori che stanno oltre, no? Ecco, si possono, ecco, catalogare tante forme diverse di fascismi, ma nessun fascismo ripeterà mai la celeberrima frase di Montesquieu che si sente prima francese e poi membro della sua provincia e si sente prima europeo e poi francese, prima cittadino del mondo e poi cittadino dell'Europa. Ecco, Montesquieu delineava, ecco, una gerarchia di lealtà che nel fascismo non compare affatto. Ecco, il quadro di legittimità, di legittimazione del fascismo è la nazione italiana. Ecco, però quello che cambia, e cambia veramente rispetto alle destre, è che il mulino dello Stato nazionale riceve acqua da tutte le famiglie ideologiche. E questo non era mai capitato. Ecco, non era mai capitato neppure nel nazionalismo francese, in quanto il nazionalismo francese, anche quando era nazionalismo d'apertura, aveva sempre una connotazione che potremmo definire tranquillamente borghese, no? Canepa, che abbiamo ricordato poc'anzi, ecco, non era assolutamente disposto a fare di Barrès un affine o un precursore del fascismo francese, perché diceva che in Barrès c'era una nota borghese. E quindi diciamo, ma qui però, così ripeto cose a voi forse note, l'avrete lette nell'assunto della mia relazione, che la grande chance del fascismo in un momento cruciale della vita nazionale italiana, ecco, fu quella di riuscire ad essere il grande collettore, ecco, di una serie di inquietudini spirituali a destra e a sinistra, sindacalismo rivoluzionario e nazionalismo, che erano un fatto tipico, specifico della cultura italiana. Accenno solo ad uno degli elementi caratterizzanti della nostra cultura politica italiana. Mommsen, andando a Roma prima dell'arrivo dei bersaglieri, aveva avvertito l'Italia: cosa ci andate a fare a Roma? Ecco, ma in realtà, ecco, la risposta alla domanda di Mommsen era il senso stesso del risorgimento italiano. Cioè, il risorgimento italiano, come ha anche sottolineato un bravissimo sociologo italiano, Luciano Cavalli, è legato alla grande promessa. Cioè, non vale la pena mobilitarsi, non vale la pena unificarsi, ecco, se non per un disegno che non può essere il disegno ristretto dello Stato nazionale, di uno Stato nazionale da affiancarsi ad altri Stati nazionali. Ecco, gli italiani possono mobilitarsi soltanto se realizzano una grande missione storica, soltanto se creano un'altra civiltà, non? E la grande promessa del Risorgimento è la grande promessa legata alla restaurazione della potenza. In una interessantissima ecco, conversazione avuta ieri sera con l'amico, ecco, Variani, e Variani, ecco, diceva delle cose estremamente interessanti e profonde, il cui succo in sostanza era questo, cioè l'Italia non ha mai avuto una tradizione democratico-liberale, cioè non ha mai avuto una struttura sociale che potesse portare un sistema politico democratico-liberale, ecco, sia a destra che a sinistra. Ecco, in un certo senso la politica, ecco, viene intesa come fatto salvifico. La politica è un impegno totale. Ecco, cito soltanto, ed è veramente questa l'ultima citazione, ecco, l'ideologia de Sanctisiana dell'uomo del Guicciardini. Ecco, De Sanctis, ecco, nella letteratura italiana, ecco, antipatizzava proprio con il momento di maggiore fioritura, cioè il Rinascimento. Perché antipatizzava con il Rinascimento? Perché il Rinascimento aveva dato all'Italia l'uomo del Guicciardini, cioè aveva dato, ecco, il cinico, lo spregiudicato, possiamo dire, dando alla parola una connotazione negativa che forse non aveva in De Sanctis ma avrà nei fascisti, il cosmopolita. Cioè l'uomo il cui referente di legittimità non è l'Italia, non è il quadro nazionale, ma è il mondo, l'arte per l'arte, ecco, i valori nella loro assolutezza. Ecco, direi che questo specifico nazionale, ecco, condiziona tutta la cultura italiana, tranne naturalmente grandi, luminose eccezioni che... Variani è d'accordo, ma che vanno per esempio da Cattaneo a Einaudi, ecco, queste sono un po' delle piccole isole, ecco, demoliberali anglosassoni in questo mondo culturale che concepisce la politica come impegno e concepisce la cultura come impegno politico in sede non politica. E direi che il fascismo, ecco, riuscì ad essere l'espressione di tutto questo, ma riuscì ad essere l'espressione non soltanto della destra nazionalista, ma anche in parte della sinistra nazionalista. Qui ha ragione Zev Sternel, cioè la tesi di fondo di Zev Sternel nel volume Nidruani Gauche è questa, cioè la critica della società borghese, ecco, se ha abbandonato i lidi sicuri del marxismo, se ha abbandonato la democrazia liberale, ecco, diventa una critica aperta al fascismo. Cioè, se l'antiborghesismo non è più marxista in senso ortodosso e ha perso il senso delle istituzioni liberali, diventa, dice Sternel, necessariamente fascista. Mi pare che la vicenda culturale italiana, ecco, sia un po' una dimostrazione a latere, ecco, di questa tesi che, a mio avviso, ecco, nel caso della Francia, esaminato da Sternel, è senz'altro validissima. Ringrazio il professor Cofrancesco per la sua esauriente, grande relazione, per questo quadro che è spaziato tutti i problemi connessi col fascismo e con una interpretazione filosofica anche del fascismo. E faremo poi adesso una pausa, direi di... Adesso cominciamo con la discussione. Si è iscritto come primo, cioè il professor Corsini, poi un momento Petersen, scusate che non ho fatto prima già Corsini. Petersen, Pombini, Pombini, Valiani, Bini, Valiani, Lille, Valiani, Lille, Trinchese, scusi, che io devo i nomi sempre, e la vecchiaia che devo un momento sempre ripensare ai nomi. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, chi è ancora? Sono, no, poi si vedrà. Per il momento sono 6, credo che possiamo fare così, lei preferisce rispondere ad uno o... Come preferisco. Noi qui è meglio, l'abbiamo fatto che facciamo prima le cose, se sono 6 credo che sia proprio al limite che possiamo farle tutte una dopo l'altra e poi lei risponde a questi 6, se intanto vengono altri possiamo farlo. Allora il primo è il professor Corsini. Il mio intervento occupa pochissimo spazio, ma credo doveroso farlo come un elemento di contributo per quanto riguarda la valutazione che mi ha un poco sorpreso, fatta nella relazione del professor De Francesco, di questo trentino Italo Lunelli, che è stato citato più volte come, così come fosse una fonte dottrinale credibile o d'altro, forse il professor Francesco non ha avuto conoscenza. Quest'uomo è morto nell'immediato dopoguerra, era qui trentino, è arrivato al fascismo attraverso l'interventismo, è stato anche medaglia d'oro, e un uomo specchiatissimo dal punto di vista morale, personale, eccetera, ma non ha lasciato degli scritti e non è stato un elaboratore né un valutatore di dottrina tale da poter essere ritenuto, a mio avviso, una fonte attendibile. E scriveva così per volgarizzazione. E da un certo punto di vista a me è sembrato, io l'ho anche conosciuto, a me è sembrato che fosse veramente rappresentativo, involuto, rappresentativo di quella confluenza confusa di origini diverse all'interno del fascismo, di movimenti, di ideologie vero diverse. Quanto a poi alla questione della ineguaglianza e della diversità, io credo che una lettura, va bene, vero, anche di altri suoi scritti, porterebbe bene a vedere che egli poneva veramente una disuguaglianza, specialmente anche in rapporto alla questione razziale. Alla fine si è avvicinato ad assorbire una dottrina così schematizzata intorno a questi disvalori vero, fondamentali del fascismo, ma in un modo completamente acritico, e per questo penso che sia un contributo quello di indicarlo come una fonte non attendibile per quanto riguarda queste problematiche. Da questo punto di vista l'ho fatto l'intervento. Professor Petersen? Posso parlare in tedesco? Sì. Sì. Lo capisce, sì. Sì. Habe eine Frage, die sich mir bei Ihrem Vortrag gestellt hat, ob es sinnvoll und ob es zulässig ist, dass man diese Diskussion über rechts-links, ob man die sozusagen auf den beiden Ebenen der Zwischenkriegszeit, auf der einen Seite des historischen Faschismus, führen kann und gleichzeitig aber die Situation heute, der 80er Jahre, so unmittelbar mit hineinnehmen kann, wie Sie es getan haben. Die Diskussion, die sich heute ja nicht mehr so sehr um den historischen Faschismus, sondern die von Ihnen angeführten Beispiele wie Borbio und andere, beziehen sich ja heute sehr viel stärker auf das heutige Phänomen des Rechtsradikalismus, des Neofaschismus. Ich hätte große Bedenken, diese beiden Ebenen miteinander so unmittelbar zu vereinen. Ich würde meinen, dass es methodisch erkenntnismäßig sinnvoller ist, da eine deutliche Scheidung zu machen. Wenn man etwa daran denkt, in Deutschland hat es in den letzten Jahren eine große Diskussion um die Anwendbarkeit der Begriffe rechts-links gegeben, wobei zum Beispiel von linker Seite, der SPD, gerade von den kritischen, ökologischen und pazifistischen Fragen aufgeschlossenen Intellektuellen der SPD, der Begriff des Wertkonservativismus in die Debatte geworfen worden ist, wo die These vertreten worden ist, dass die Linke heute sozusagen rechte Positionen in ökologischen Fragen übernimmt, weil sich mit der totalen Veränderbarkeit der Welt heute bestimmte Fragestellungen, die sozusagen das klassische Rechts-Links-Schema einordnungsbar waren, noch 1945, heute es nicht mehr sind. Was früher rechte Positionen zu sein schienen, etwa in der Bundesrepublik im Rahmen der CDU, die ganze Technikdiskussion, die Frage der technischen, auch der technischen Zwänge, die heute in der Gesellschaft präsent sind, Frage des Fortschritts, Frage der Weiterentwicklung, der Zuwachsraten, ähnlicher Dinge, des wirtschaftlichen Wachstums, das sind alles eigentlich Positionen, die früher von der Linken okkupiert gewesen sind und die heute eher sozusagen auf der Rechten zu Hause sind. Also ich würde meinen, dass man hier deutlich einen sehr tiefgreifenden Wandel konstatieren muss und dass diese Diskussion heute unter ganz anderen Vorzeichen geführt wird, als sie noch, sagen wir, bis 1945 geführt worden ist. Die zweite Überlegung wäre überhaupt die, ob diese Diskussion, die ja stark nominalistische Züge trägt, ob die auch für die, sozusagen für den historischen Faschismus, für die Zwischenkriegszeit sinnvoll ist. Die Linke hat auch bei der Diskussion des historischen Faschismus ja immer mit dem Basisüberbau, mit dem Sein-Bewusstsein-Schema gearbeitet und so argumentiert, dass sie gesagt hat, das sind diese ganzen ideologischen Probleme, das sind Überbauphänomene, das ist der schöne Schein. Das ist nicht die Realität, sondern die Realität ist eigentlich, das sind die harten ökonomischen Fakten, das sind die gesellschaftlichen Lagen, das sind die Klassenbeziehungen etc. Sie können sozusagen in der ganzen linken Diskussion ein klassisches Argumentationsschema finden, wo es heißt, der Faschismus argumentiert links, aber sein Sein nach und seiner Essenz nach, sein Wesen nach ist er rechts. Mir scheint vielleicht das wichtigste Ergebnis der neuen Faschismusgeschichtsschreibung, über die wir ja auch in den vergangenen Tagen mehrfach gesprochen haben, also von Aquarone bis zu De Felice und anderen zu sein, dass gerade dieses Bewusstsein-Sein-Schema aufgebrochen worden ist und dass man in der Diskussion etwa des italienischen Faschismus zu der Erkenntnis gekommen ist, dass auch die Illusionen, die Blindheiten, die sozusagen die Handlungsblockierungen, die in den damaligen politisch Handelnden vorhanden waren, dass die auch mit geschichtsbestimmend geworden sind. Dass also hier bestimmte Bewusstseinsphänomene politisch, historisch tragfähig geworden sind, politisch wichtig geworden sind. Etwa die Tatsache, dass die meisten der politisch Handelnden in den Jahren 20 bis 25 dieses Phänomen des Faschismus gar nicht erkannt haben. Sozusagen die Blindheiten sind ein handlungsbestimmendes Motiv. De Felice etwa hat an verschiedenen Stellen gesagt, dass der Schein historisch häufiger, politisch historisch bedeutsamer sein kann als das Sein. Von daher scheint mir, sind hier auch die Begriffe von rechts und links gar nicht mehr voll tragfähig. Das wäre eine Beobachtung, dass sich auch dem damaligen Beispiel eigentlich die Dinge viel komplizierter und ineinander sehr viel stärker verwoben darstellen, als es vielleicht nach einigen Ihrer Ausführungen zu sein schien. Danke, Mombeni. Io credo che la discussione che abbiamo condotto in questi giorni con la relazione di Francesco sia di nuovo tornata su un tema molto centrale, che è questo. Cioè, ancora una volta delle categorie di misurazione di un fenomeno storico. Cioè, la cosa che a me lascia sempre perplesso è questa come dire, questo abitamento su se stesso, che secondo, su se stesso, che secondo me la coreografia sta facendo, perché manca di uno strumento di misurazione. Cioè, questo problema della destra e della sinistra è un problema tipico. Cioè, che cosa vogliono dire le parole? Cioè, io credo che il fatto che manchino completamente referenti di studi di linguistica, di studi di retorica, di studi di semiologia, è un grosso passo indietro che ci impedisce di capire. Cioè, faccio un esempio banale ma importante. Cortellazzo e Leggio hanno fatto alcuni studi abbastanza embrionali di linguistica sul fascismo, da cui però si vede chiaramente che le figure retoriche che Mussolini usa sono 7-8 figure retoriche che poi per modernistica si espandono dappertutto. È una delle figure retoriche più tipiche, di cui non ricordo più il termine tecnico perché non sono studioso di retorica purtroppo, è questa della compensazione a parole di concetti opposti, conservazione rivoluzionaria, rivoluzione conservatrice e via dicendo. Allora, io non credo che si possa interpretare tutta questa ideologia di questi fascisti, di questi scrittori che sono teoricamente deboli, senza tenere presente di questo modello semiologico, di questo universo semantico in cui si esprimono. Cioè, tutti tendono a dire questa stessa cosa, che fondamentalmente il fascismo è buono o cattivo. Su questo punto esistono degli studi, i francesi sono più avanti di noi, hanno fatto questi studi molto importanti, questo studio di linguistica storica che c'è a Lione, se non vado errato, della Romania, dimostrando per esempio che la caratteristica della linguistica politica è tutta la riduzione del messaggio propagandistico alle categorie di buono e cattivo, per cui è, in più la sociologia è il buono ciò che fa bene, no? Allora io credo che questa sia una, questo sia un problema grosso che noi ci dobbiamo porre nell'interpretazione di questo materiale. E questo è un problema di un metodo di misura. Poi secondo me c'è un secondo problema di un metodo di misurazione che riguarda tutte queste questa querelle sulla modernizzazione e non modernizzazione. Io credo a questo punto che gli americani siano stati un disastro storico, perché purtroppo gli americani sono un popolo senza storia e quindi ogni volta che parlano della geografia introducono dentro, adesso io parlo di estremismo un po', ma introducono dentro questi concetti. Per me, che cosa vuol dire la modernizzazione è un sintomo di sinistra? Cioè, che cos'è la modernizzazione? Se per modernizzazione intendiamo la trasformazione, va bene, allora, Federico il Grande, che cos'è il precursore di Lenin? E via dicendo, cioè, esistono, e qui adesso non banalizzo, cerco di arrivare a un livello tecnologico un po' più raffinato. Cioè io credo che il problema della storiografia sia quello di rifare i conti con alcune categorie di lungo periodo per davvero. Cioè chi governa tende sempre alla trasformazione, perché la trasformazione è l'adeguamento alle domande del momento, ciò che legittima il potere. Allora, se questo è un dato strutturale della politica, questo è uno strumento di misurazione che ci consente. Per cui il fascismo non è di destra o di sinistra, il socialismo non è di destra o di sinistra perché ha fatto alcune riforme, ha fatto alcune cose, è un governo, i governi fanno queste cose, gli uomini fanno queste cose. Terzo punto, che riguarda ancora un criterio di misura, è il problema della perdita all'interno della storiografia del contatto con le discipline giuridiche. Io credo che questo sia un problema molto grosso, perché faccio un esempio sulla questione dell'egualitarismo, che è giustamente una questione centrale. Peraltro, la questione dell'egualitarismo è una questione squisitamente giuridica. Non esiste meno svelto, più piano, per favore, perché per tutti sappiamo un po' di italiano, ma abbiamo delle difficoltà se parla troppo in fretta. Certo, scusate, l'egualitarismo è una questione squisitamente giuridica. Cioè, nessuno sostiene che gli uomini come individui sono uguali, cioè ciò è contro i dati della natura. Il problema è se i soggetti di diritto sono uguali, no? Il problema è se le posizioni, le relazioni sono basate sull'ipotesi che gli attori, i contraenti siano uguali. Questo è il problema dell'egualitarismo, no? Allora, e così il problema della diversità è il problema delle posizioni giuridiche di questi soggetti diversi, e se questi soggetti diversi possono essere o meno definiti. E io qui, in questo, credo che il fascismo non sia stato né egualitario né anti-egualitario, perché non ha capito questo problema e non è riuscito a dare alcuna definizione giuridica, per cui né i soggetti cosiddetti gerarchici erano individuabili, cioè erano alla fine funzione di un mito, né i soggetti egualitari erano femminili. E finisco con un'ultima notazione, cioè non è il caso di ritornare su questa spaccatura fondamentale fra Gesellschaft e Gemeinschaft, che è veramente uno dei momenti di crisi della coscienza giuridica europea, cioè quando alla nozione di Gesellschaft, che è una nozione di tipo giuridico e quindi in qualche modo verificabile, si è andati, da parte dei giuristi stessi, per la verità, come ognuno sa, alla ricerca di nuovo di questa concezione della Gemeinschaft, che invece è una concezione difficilmente verificabile, che è una cosa che nessuno sa che cos'è, e che in fondo è un concetto che serve solo per dire che la Gesellschaft non va bene. Grazie, adesso il senatore Mariani. Dunque, io intanto vorrei, per quanto il professor Pombini abbia ragione di dire che al fondo si vuole distinguere fra buono e cattivo, tuttavia separerei i concetti di sinistra e di destra e di rivoluzione o di conservazione da buono e cattivo. In questo sono d'accordo con Weber, anche se io poi non sono weberiano, sono crociano. E non confonderei neppure rivoluzione con sinistra e conservazione con destra, i due casi classici, naturalmente. Il nazismo era di destra, nessuno ha detto che non fosse di destra, c'erano in questo dibattito. Però attuò delle rivoluzioni, era rivoluzionario, voleva cambiare tutto e nella misura in cui poté cambiò effettivamente tutto. Il radicalismo francese era sicuramente di sinistra e si vantava di essere sinistra, qua dal mio Gauche nessun nemico a sinistra, però era eminentemente conservatore a partire dal, non so, potrei dire, dalla sua nascita, naturalmente se per radicalismo intendiamo Robespierre non era conservatore, però se il radicalismo lo facciamo datare come dobbiamo farlo datare dagli anni 1830, conservava le conquiste della rivoluzione, difendeva le conquiste della rivoluzione sia verso la destra sia verso l'estrema sinistra, quindi era eminentemente conservatore, però era pur sempre un'ideologia, un partito politico di destra, di sinistra. Quindi lasciamo stare rivoluzione e conservazione, limitiamoci proprio al problema destra e sinistra e distinguiamo rettamente tra teoria e fatti. Sul terreno delle teorie, io, malgrado la mia amicizia e ammirazione per Bobbio, non sono d'accordo con lui che i punti, diciamo, a parte che Bobbio, forse qui vorrei dire al professor Petersen, si intervenne in una discussione attuale, ma in realtà egli si riferiva al fascismo storico, non al fascismo attuale, non si riferiva al neofascismo, si riferiva proprio al fascismo storico. In connessione con quei convegni, sì, va bene, d'accordo, però lui prescisse dall'occasione contingente del convegno per... aveva in mente non i neofascismi odierni, o i movimenti comunque neo-antifascisti odierni, ma proprio il fascismo storico. Ora, io non concordo con lui che veramente i veri poli siano Rousseau e Nietzsche. Naturalmente Rousseau è estremamente importante per il fascismo, più che per il fascismo, per Mussolini personalmente, ma qui abbiamo già notato come Mussolini fosse importante nel fascismo, anche se forse non aveva la stessa importanza che Hitler ebbe nel nazismo. Per Mussolini personalmente Nietzsche era molto importante. Però insomma sono posizioni, sia quella di Rousseau che quella di Nietzsche, anche quella di Rousseau, molto ma molto unilaterali. Io naturalmente mi farò linciare da voi, io preferisco ancora allora la posizione di Hegel. Hegel, non credo che la storia dell'umanità sia una storia di, diciamo, di essere nati liberi ed eguali e poi messi in catene, e non credo che sia neanche una storia di superuomini. Mi sembra che tutte le ricerche storiche, antropologiche, etnologiche, sociologiche moderne confermino che l'umanità non è mai stata uguale, ha sempre avuto dei capi, ma questi capi non erano superuomini, erano dei capi generalizzati, proprio il contrario del superuomo. Nelle società fredde, analizzate dagli antropologi, ci sono dappertutto i capi, ma sono capi istituzionali. Non c'è l'eguaglianza, ma ci sono società di eguali, non esistono se non nei limiti che ha detto il professor Pombeni, che nella società liberale moderna, o meglio nella società democratica moderna, perché per esempio sotto il liberalismo puro non c'era il suffragio universale, quindi dal punto di vista politico non c'era eguaglianza neanche giuridica fra gli uomini, ma diciamo nella società democratica moderna, però questo prende 70, 80, 100 anni della storia di centinaia di migliaia di anni, o se volete soltanto di 10.000 anni, quelli che conosciamo dall'antichità classica o mesopotama ad oggi, beh insomma non c'è eguaglianza, ma ci sono dei capi, ma il dominio dei superuomini è sempre una leggenda, un mito, e quindi non prenderei come termine fondamentale né Rousseau né Nietzsche, li considererei come due certamente grandi pensatori, ma che rendevano estremamente unilaterale la visione del mondo. Starei su pensatori invece che sono fra i due estremi, e pur con le fenomenali sciocchezze che ha detto, direi che l'idea di Hegel, che c'è sempre l'uno e l'altro, c'è una tendenza all'uguaglianza e una tendenza alla disuguaglianza nelle società umane, che c'è una tendenza ai capi e c'è una tendenza al movimento spontaneo della storia stessa, sia più profonda e più vera. Naturalmente Hegel può essere interpretato da destra e sinistra, lo fu. La destra e la sinistra hegeliana nascono contemporaneamente, non intanto Marx naturalmente, ma prima di Marx c'era già un'altra sinistra hegeliana, cioè i suoi compagni, naturalmente i suoi amici, Bruno Bauer, Ruge e via dicendo. Incidentalmente volevo dirlo questo quando discutevamo dell'antisemitismo. Nella sinistra hegeliana l'antisemitismo è già forte. Se Marx personalmente, pur essendo di origine ebraica, ha degli accenni antisemiti, perché in Bruno ed Edgar Bauer, che erano uomini di sinistra, l'antisemitismo della sinistra hegeliana era fortissimo. Quindi anticapitalismo, certo, ma non il vecchio anticapitalismo del contadino che sarà espropriato, dell'artigiano che sarà espropriato, no, l'anticapitalismo di intellettuali che si mettono con la Edgar Bauer, addirittura la sinistra libertaria è vicino all'anarchismo. Sicuramente ha influito Edgar Bauer su Bakunin, la formazione di Bakunin in Germania risente di un hegelismo, a parte l'hegelismo che aveva già letto in Russia, ma in Germania quando rilesse queste cose risente proprio di Edgar Bauer, che la sinistra hegeliana prima di Marx, però con una coloritura antisemita che va tenuta presente, perché anche Hitler non prende solo elementi di destra, ma anche prende elementi di sinistra. Poi la destra hegeliana, naturalmente, che è una destra conservatrice, nazionalista, eccetera. E quindi si capisce poi il problema della sinistra e della destra centra. Tuttavia, malgrado tutto, non dividerei le teorie in destra e in sinistra, che sono termini della factologia politica, se dello svolgimento effettivo politico. Le teorie le vedrei nella loro capacità di comprendere lo stadio al quale il pensiero e il pensiero speculativo e il pensiero scientifico sono fino a quel momento giunti. Si rimproverò a Hegel, dice, fin qui il pensiero è giunto, e quindi regno protestante prussiano, che poi lui non approvava perché i suoi scritti politici sono liberali, non sono conservatori, era in quella situazione in cui era all'Università di Berlino, ma insomma gli si rimprovera di dire fin qui il pensiero è giunto e di non aver visto che il pensiero lo avrebbe sorpassato. Ovviamente questo è il torto e il limite di Hegel, però ogni volta che noi ci poniamo davanti ha una visione globale del mondo, e beh, per forza facciamo il facit di quello che sappiamo. Diceva Antonio Labriola, che era hegeliano e marxista, che nessun metodo può farci sapere più di quello che sappiamo per studi effettivamente compiuti. Hegel faceva il facit degli studi del suo tempo, che immediatamente con le grandi rivoluzioni scientifiche dell'Ottocento furono superati, lui diventava effettivamente antiquato, assurdo, tutto quello che si vuole. Noi adesso, su scala molto più modesta, facciamo il facit di quello che conosciamo, e quello che conosciamo non ci conferma né Rousseau né Nietzsche, non ci conferma non soltanto nel passato, perché la preistoria non si era svolta, non si è svolta come Rousseau pensava, ma anche oggi, se guardiamo tutte le rivoluzioni egualitarie, quelle che Talmon deriva da Rousseau, comuniste o egualitarie, tutto c'è fuorché l'eguaglianza, naturalmente, in Unione Sovietica, in Cina, in Jugoslavia, nel socialismo africano, che quello sì, sono d'accordo con quell'autore francese, lo racconterei più a Mussolini che a Lenin, Gheddafi o Nasser, però insomma, in tutte queste rivoluzioni, tutte venute con la bandiera dell'eguaglianza, o dell'eguaglianza nazionale, o delle, come appunto Nasser, o dell'eguaglianza delle nazioni, insomma, o dell'eguaglianza sociale, o tutte e due insieme, tutto c'è, ma poi l'eguaglianza alla fine non c'è. C'è molto più eguaglianza nelle società capitalistiche liberali, che invece sono molto dubbiose circa la loro derivazione da un'idea egualitaria, perché piuttosto le derivano da quello che diceva con Francesco, la diversificazione, cioè il concetto liberale della diversità, anche se non proprio dell'ineguaglianza, magari proprio anche invece dell'ineguaglianza. Quanto a Nietzsche, non so, si sono visti questi superuomini, e tutto il dibattito di questi giorni ha dimostrato che in ultima analisi hanno agito come uomini di genialità pratica, ma quanto a superuomini si sono rivelati tutto il contrario, si sono rivelati più confusionari, più più folli, e del resto non è un caso che anche Nietzsche personalmente è più folli che superuomini, più malati mentalmente superuomini. Quindi direi, mi metterei piuttosto in una posizione di ricercare, dico che si debba risalire Hegel per carità di Dio, ma se mi metterei a ricercare allora teorie più moderne, e devo dire che per esempio in Pareto, nella sociologia di Pareto, c'è più, naturalmente perché ho vissuto dopo, molto dopo Rousseau e parecchio dopo Nietzsche, ma in Pareto, o in quello che poi la sociologia ha sviluppato dopo Pareto, c'è più senso della realtà, perché i rapporti fra elite e masse, che sono i rapporti poi, il problema fondamentale della società moderna, sono colti meglio che in Rousseau o in Nietzsche. Persino sul terreno specifico di Talmon, cioè la derivazione, che indubbiamente esiste, del leninismo da Rousseau, perché esiste il fatto che ci fu Robespierre, ci fu Babeuf, che voleva, pur essendo già comunista, voleva restaurare la dittatura e la Costituzione, più che la dittatura, la Costituzione del 1793 di Rousseau, con una dittatura provvisoria. Poi Buonarroti, Blanqui, Marx in una certa sua fase, i blanchisti russi, Tkachev, eccetera, si arriva effettivamente a Lenin. Però l'azione di Lenin teneva molto più conto degli insegnamenti di Pareto o degli sociologi del tempo, cioè come si manovrano e manipolano le masse, che non di Rousseau. E questo Stalin poi questo l'ha portato alla perfezione. Insomma, il problema delle masse non lo vedevano come lo vedeva Rousseau, volontà generale eccetera, lo vedevano, ed è ovvio perché sono passati nel frattempo 100 e più anni, lo vedevano appunto, e neanche naturalmente nei termini di Nietzsche, come dei capi politici abili in democrazia o in dittatura devono dirigere le masse. Invece sulla questione dei fatti, della storia dei fatti, lì sì, sinistra e destra hanno una loro validità, non concettuale naturalmente, ma hanno la loro validità, perché la lotta politica, e soprattutto nell'epoca del fascismo, in quella che Nolte chiama il fascismo nella sua epoca, hanno avuto una certa importanza. E anche lì strumenti fatti sono sempre paradossali. Il nazismo l'abbiamo messo a parte perché viene dalla destra tedesca, sia pur poi per finire col distruggere, come ci ha spiegato ieri il professor Schiede, la destra tedesca che in gran parte è finita sulle forche, sui protoni, davanti ai protoni di esecuzione. I fascisti vengono quasi tutti da sinistra, Mussolini capo della frazione rivoluzionaria del Partito Socialista, quasi tutti i fondatori dei fascisti vengono dal sindacalismo rivoluzionario. Anche molti capi del nazionalsocialismo tedesco vengono dal comunismo. Capi no, piuttosto militanti però. Anche, forse Winnig l'unico capo, no? Anche, che viene dal movimento socialista, Winnig, no? Winnig sì. Ma dal comunismo chi viene dei capi del nazismo? Per esempio, capi militanti di base. Per esempio il Habicht era ex comunista. Ah, sì? Sì, Habicht, Habicht no, l'austriaco era comunista? Non era austriaco, era prussiano, ma mandato in Austria. Ma era comunista? Era comunista originariamente. Ah, no, effettivamente c'è stato un fenomeno interessante, il nazional-bolscevismo. Io volevo dirlo a proposito dell'antisemitismo, di Wolfheim. Strasser vigna dal comunismo? No, ma si avvicini... No, ah, dopo. C'è stato semmai un fenomeno, ma quelli non hanno partecipato al nazismo. Wolfheim e Laufenberg, il movimento di Amburgo, che erano dei socialdemocratici di sinistra che poi erano fra i fondatori del Partito Comunista Tedesco e che furono scomunicati da Lenin nell'estremismo, perché dicevano nazional-bolscevismo, cioè unire la destra e la sinistra in Germania nella guerra alla Polonia. Furono scomunicati da Lenin perché troppo presto, perché 3 mesi dopo averli scomunicati lui fece attaccare la Polonia, sì. E sarebbe stato ben lieto se la destra tedesca fosse insorta per prendere alle spalle i polacchi. Ma effettivamente in Wolfheim e in Laufenberg c'è qualche cosa, però poi non, per esempio il loro violento antisemitismo, ma anche se non ebbero veramente influenza. Invece i capi fascisti italiani che venivano a sinistra furono i gerarchi del regime, naturalmente, Rossoni, Michele Bianchi, segretario del partito, Pasella, all'origine altri segretari del partito, i fratelli Paselli, Biagi, come si chiama, Razza, Marinelli, Cesare Rossi, Italo Balbo, dai repubblicani. Ora. E persino fra i ex nazionalisti, Maraviglia, Forges Avanzati vengono dal sindacalismo rivoluzionario e via dicendo. Il programma stesso del fascismo nel 1919 è un programma di sinistra, su questo non c'è dubbio, il programma dei fasci di combattimento. Tutte rivendicazioni prese dalla sinistra. Poi Rocco è stato già detto, dai radicali, prima di... Ma il programma del 19 Rocco non c'era ancora, era ancora nazionalista, è un programma di sinistra. Però col programma di sinistra Mussolini fu sconfitto, disastrosamente. Alle elezioni del novembre 1919 a Milano, pur avendo in lista Toscanini, prende 4.000 voti, mentre il Partito Socialista prende 150.000 voti. Chiuso il capitolo, Mussolini, che evidentemente aveva fiuto politico, adesso si disse: con la sinistra io non combino più in niente. L'Europa va a destra, quell'articolo, il titolo che dà alla rivista Gerarchia, che è proprio il termine che attribuisce alla destra quell'autore o quegli autori che con Francesco ha citato, il mondo va a destra, io mi metto a destra, entra nella Camera dei Deputati ed entra attraverso un blocco nazionale che era di centrodestra, non c'è dubbio, sì c'era Giolitti che diciamo era di centrosinistra come capo, ma gli ex seguaci di Giolitti non sono nel blocco nazionale socialisti riformisti, quelli sono nel vecchio Partito Socialista e dal centro a destra che per quel blocco, liberali di destra soprattutto. Ebbene, eletto in quel blocco, Mussolini potrebbe sedere dove vuole alla Camera dei Deputati, dimostrativamente si siede all'estrema destra, perché capiva che il suo successo politico dipendeva da questo. E questo è rimasto così per 20 anni. Il successo politico del fascismo è dato dal sostegno che gli veniva da quelli che tradizionalmente si chiamano di destra, fossero poi di destra rivoluzionaria o di destra conservatrice, fosse il nazismo che era destra rivoluzionaria, fosse Churchill e i conservatori inglesi che erano appunto di destra conservatrice, fosse la destra conservatrice francese oppure fosse la destra fascista francese che si chiamava rivoluzionaria. Anche nei fascisti francesi molti venivano da sinistra. Béat era socialista, Doriot comunista, naturalmente amico di Lenin, Lagarde sindacalista rivoluzionario, via dicendo. Però in sostanza è la destra francese o moderata o di estrema destra fascista che dà un appoggio a Mussolini. Laval veniva dal comunismo naturalmente, però è da destra che diventa presidente del Consiglio e dà l'appoggio a Mussolini nella guerra d'Etiopia. E così un po' dappertutto, con l'unica eccezione forse degli Stati Uniti, dove è più fra i rooseveltiani l'interesse per Mussolini che fra i repubblicani per l'intervento dello Stato nell'economia. E infatti se si guarda qualche autore, allora anche in Francia, in Germania, soprattutto in Inghilterra, ci sono degli autori di sinistra che simpatizzano con Mussolini per l'intervento dello Stato nell'economia, senza arrivare a Bernard Shaw che dice gli unici uomini di sinistra sono Stalin e Mussolini perché fanno fuori tutti questi chiacchieroni e comandano loro. Per lui la sinistra era, per Bernard Shaw era quella. La lotta politica che si accende in Europa e che poi conduce alla sconfitta del fascismo e del nazismo è una lotta politica fra destra e sinistra, non teoricamente, teoricamente qui tutto questo è secondario. Fatto sta che attorno all'impresa etiopica, attorno alla guerra civile spagnola, attorno all'occupazione della Cecoslovacchia, si accende in Europa una lotta politica fra quelli che vogliono avversare queste imprese e quelli che li vogliono pacificare. Epizers e naturalmente anche fra gli Epizers ci sono degli uomini di sinistra, basti pensare ai due capi dei maggiori partiti di sinistra europei, Lansbury e Polfor. Lansbury per pacifismo, Polfor per pacifismo, sono per l'appeasement. Ma vengono messi in minoranza. Lansbury da Bivin è addirittura eliminato dal novero dei capi del laburismo. Paul Faure resta segretario del partito, poi andrà con Pétain, ma politicamente anche lui dominato da Léon Blum, che invece è per creare un blocco antifascista, antinazista europeo. Ed è questo blocco che alla fine si trova in guerra col fascismo, perché Chamberlain fino all'ultimo momento vuole evitare la guerra, è disposto a fare a prendere di nuovo l'ombrello, andare di nuovo, se non a Godesberg, in un luogo neutrale, e l'opposizione laburista nella Camera dei Comuni, l'opposizione laburista nel paese, più qualche conservatore che in quel caso passa con i laburisti, Churchill, Emery, eccetera, che costringono Chamberlain, che non vuole, dichiarare la guerra alla Germania per l'invasione della Polonia, e quindi obbliga anche la Francia, riluttante, dove solo la sinistra di Léon Blum voleva la dichiarazione di guerra ma non il centro, a dichiarare guerra, e così si arriva fino alla resa incondizionata, che fu diplomaticamente probabilmente molto poco saggio, ma che fu l'espressione di una certa prevalenza della sinistra antifascista, naturalmente non comunista ma democratica, in seno alla coalizione che fece la guerra al fascismo e al nazismo. Quindi destra e sinistra qui hanno un senso, direi, di fatti, e attorno a questa cosa destra-sinistra, la guerra spagnola fu proprio lo spartiacque. Naturalmente fra i repubblicani c'erano degli uomini di destra, i nazionalisti baschi cattolici erano di destra, e può darsi che, io non conosco bene, non ho mai studiato il campo franchista, ma può darsi che fra questi falangisti ci fossero di quelli che pensavano a una rivoluzione sociale, ma sostanzialmente fu la divisione fra destra e sinistra, non in Spagna soltanto ma un po' in tutta l'Europa, e lì Mussolini scelse la destra senza essere poi neanche costretto, perché nessuno obbligava Mussolini, neanche Hitler del resto, ma nessuno obbligava Mussolini a intervenire in quella guerra civile, che fece soltanto del danno a lui, perché cementò la coalizione antifascista, antinazista europea e mondiale, malgrado la vittoria che il fascismo e il nazismo riportarono in Spagna. Ecco, io ho già concluso. Vorrei dire, cioè, stiamo attenti, destra-sinistra, buono-cattivo, violenza e pace o pacifismo. Insomma, noi quando studiamo un fenomeno dobbiamo anzitutto studiare che cosa gli ha dato successo e che cosa invece l'ha condannata alla sconfitta. La destra può essere buona o cattiva, la sinistra può essere buona o cattiva, la guerra può essere buona o cattiva, il pacifismo può essere buono o cattivo, ma se noi studiamo un fenomeno, se vogliamo comprenderlo, grazie a che cosa ha vinto oppure per effetto di che cosa ha perso, questa è veramente la sola cosa interessante. Ora non c'è dubbio che il fascismo ha vinto grazie all'appoggio delle destre in Italia, e anche se gli uomini del fascismo venivano quasi tutti da sinistra, è grazie all'appoggio delle destre che ha vinto in Italia e anche finché ha vinto, cioè Etiopia, Spagna, accordo di Monaco sulla Cecoslovacchia, finché ha vinto grazie all'appoggio delle destre. Violenza, fascismo sarebbe potuto anche non essere violento, ma è grazie alla violenza che ha vinto. Naturalmente questo vale non solo per il fascismo, vale anche per gli altri. Se ci rimandiamo il comunismo, come ha conquistato il potere attraverso la guerra, naturalmente la presenza dell'Armata Rossa, o viceversa ancora in Russia nel 17 attraverso la vittoria dell'armata tedesca che mandò Lenin in vagone piombato. Anche per le democrazie questo vale, del resto. Come le democrazie hanno sconfitto il fascismo? Attraverso una guerra. Una guerra dichiarata poi non dal fascismo, ma cioè non dal nazismo. Il nazismo la dichiarò verso la Polonia, anzi non la dichiarò neanche, invase la Polonia. E l'Inghilterra e la Francia che dichiararono guerra al nazismo. Insomma, in questo modo hanno vinto, e così dobbiamo, e hanno vinto sotto pressione di sinistra, ma con un capo conservatore come Churchill. Cioè destra e sinistra contano nella storia politica e dei fatti, ma non dobbiamo mai ricondurli allora a categorie ideali. Dobbiamo lasciare questa cosa, questo è buono, questo è cattivo, ai moralisti. Noi come studiosi di storia politica diciamo, beh, sarà stato buono, sarà stato cattivo, ma insomma ha vinto per questi motivi, ha perso quando ha perso, il fascismo prima aveva vinto poi ha perso, il nazismo prima aveva vinto poi ha perso, per questi altri motivi. Quindi ricondurrei sul terreno delle idee, supererei il contrasto destra e sinistra sul terreno delle idee, invece sul terreno dei fatti ricondurrei, considererei molto importante il destra e sinistra come divisioni effettive, reali, quando ci sono. Quando non ci sono, ci furono degli anni in cui rispetto al fascismo destra e sinistra era irrilevante. Per esempio, faccio l'esempio, quando Mussolini introdusse la carta del lavoro era irrilevante, e la legislazione sociale che ne derivò, era irrilevante, era secondario dire che questo è destra o sinistra. Naturalmente noi oppositori dicevamo ma questo è tutto un trucco, però insomma poi quelle leggi rimasero e ci sono ancora oggi, le leggi di assistenza sociale. Quindi era irrilevante che fossero destra e sinistra, in quel momento non aveva importanza. Lui la prese un po' da destra, un po' da sinistra, un po' da Bismarck, un po' dal movimento operaio socialista, e poi la prese soprattutto dalle condizioni reali dell'economia e della società in Italia. Nella sconfitta Mussolini torna a sinistra, naturalmente la Repubblica di Salò, la socializzazione eccetera, però in quel momento questo gli innocque, perché si alienò le residue simpatie che aveva nel mondo industriale italiano, che avendo avuto per 20 anni tanti vantaggi dal fascismo, oltre che naturalmente gli industriali sapevano che l'Italia aveva già perso la guerra, ma poi anche che questa socializzazione naturalmente non gli piacque per niente. Ma appunto la storia è così perché varia. Gli stessi schieramenti cambiano di volta in volta. Tuttavia, se guardiamo nell'insieme, se ci domandiamo per esempio perché malgrado tutto Mussolini, con tutte le divergenze ideologiche di cui abbiamo discusso in questi giorni, si alleò con Hitler, malgrado che poi detestasse a quanto pare Hitler, almeno così dice Grandi dice Mussolini detestava Hitler, ammirava Stalin, però di fatto andò con Hitler e non fu contento che Hitler facesse il patto con Stalin, perché vedeva che se c'era una possibilità per l'Italia di stabilire al pari della Germania una sua egemonia su una parte dell'Europa, era solo con l'aiuto delle destre che poteva raggiungere questo, con l'aiuto delle sinistre, dei Leon Blum o in questo caso dei laburisti, o di, in questo caso anche di Roosevelt, che simpatizzava abbastanza per Mussolini e Roosevelt. Però se l'Europa si divideva fra fascismo e antifascismo, nazismo e antinazismo, Roosevelt parteggiava naturalmente per l'antifascismo e l'antinazismo. Quindi Mussolini vide che le chance di vittoria erano solo con Hitler, poi furono invece in realtà le chance del disastro, ma questo egli non poteva prevedere. L'unico rincrovero che noi gli dobbiamo fare è di non aver previsto il futuro, perché anche noi non possiamo prevedere il futuro. Il rimprovero che gli dobbiamo dare è che comunque, avendo una volta deciso la guerra e avendola decisa senza pensare che gli interessi della Germania e dell'Italia non erano i medesimi, erano spesso antagonistici, poi non la preparò neppure, mentre almeno Hitler la sua guerra l'aveva preparata militarmente. Ecco, io preferirei rispondere a questa prima tornata di domande e poi alle altre. Cioè, innanzitutto, ecco, desidero ringraziare il professor Corsini per la precisazione relativa alla figura di Lunelli. Ecco, se non che, ecco, va anche detto, cioè, Corsini ha senz'altro ragione, ecco, Lunelli non fu un ideologo di primo piano, però ecco, insomma, qui c'è da fare un discorso un po' complesso che secondo me De Felice ha fatto benissimo non solo sulla rivista Storia Contemporanea ma anche in altre sedi. Cioè che forse per definire lo specifico fascista vanno presi in considerazione più i personaggi di secondo piano, cioè più i personaggi legati al movimento che non i personaggi legati all'accademia, ecco, più i Lunelli, i Sulis, gli Omero Valle, gli avamposti per la nuova civiltà, che non i Volpe, i Bottai, eccetera. Il metodo può essere discutibile, è stato discusso naturalmente, ecco, può suscitare delle fondate perplessità, però a me pare, ecco, che con questo metodo De Felice, specialmente nell'ultimo volume su Mussolini, insomma, abbia raggiunto alcuni, così abbia conseguito alcuni risultati abbastanza notevoli, specialmente laddove tratta nell'ultimo volume sulla nuova civiltà che i fascisti avevano in mente. Ecco, è proprio la relativa debolezza dell'ideologia fascista che consiglia piuttosto l'attenzione per queste espressioni di stati d'animo che non per tentativi di filosofia politica o giuridica più ambizioso. Su questo, insomma, si può parlare. Ecco, si può parlare a lungo, si può farlo naturalmente benissimo in altra sede. Ecco perché ho scelto Lunelli, no? Perché mi pare che Lunelli, ecco, negli anni di pubblicazione di questo scritto, cioè nel 38, ecco, faceva parte di una scuola, la scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, che in un certo senso poteva considerarsi un po' il cuore del movimento. Ecco, mentre in questi anni Gentile si era molto appannato, era stato oggetto di attacchi da parte, ecco, degli anti-idealisti, mentre Volpe faceva ormai quasi soltanto lo storico, mentre gli altri grandi intellettuali degli anni 20 erano ormai emarginati sullo sfondo, invece negli anni dopo il conflitto etiopico, ecco, emergono questi esponenti, come dice Felice giustamente, della nuova civiltà, ecco, i quali sono estremamente confusi nelle loro elaborazioni teoriche, ecco, spesso ingenui, ma consentono però di definire, ecco, un fascismo che non è più il fascismo liberal-conservatore, che non è il fascismo corporativista di spirito, eccetera, ecco, che è una nebulosa ecco, estremamente intricata da decifrare, ma ecco, di cui però si avverte attraverso la lettura, ripeto, di opere dal punto di vista teorico non molto significativo, l'assoluta specificità e originalità. No? Ecco, per quanto riguarda le posizioni, i rilievi di Petersen, io spero, ecco, di rispondere rispondendo a Pombeni e a Valiani. Ecco, vorrei solo, ecco, far rilevare che anche per esempio nel caso dei movimenti ecologici, ecco, la distinzione destra e sinistra non è così, così esposta all'obsolescenza. In quanto, per esempio, anche nel caso dei movimenti ecologici, per esempio, varia quella che può definirsi in senso weberiano, e come forse si sarà compreso, ecco, io considero Weber così il massimo punto di riferimento, almeno per quanto riguarda la mia formazione, è quello che si potrebbe definire in senso weberiano il senso intenzionato. Ora, esiste, a mio avviso, su questo poi potremmo parlare lungamente, un ecologismo di sinistra e un ecologismo di destra, no? Il senso intenzionato dell'ecologismo di sinistra è la tutela di qualcosa non per quanti fanno parte della comunità, ma per tutto il genere umano. Conserviamo il castello del Buon Consiglio non per i trentini, no? O per gli altoatesini, ma perché il castello del Buon Consiglio è bene fruibile dall'intero genere umano. Ho fatto un esempio tra tanti, ecco, però a mio avviso, ecco, si possono individuare delle varianti significative. Qui rispondo a Pombeni, con i cui rilievi naturalmente, ecco, mi trovo con tutta l'amicizia e la stima per Paolo, in quasi totale disaccordo. Cioè, innanzitutto io non ho voluto fare un'analisi linguistica del fascismo. Le analisi linguistiche del fascismo mi sembrano estremamente deboli e inconcludenti, anche perché anche gli autori che tu citavi, ecco, si possono tranquillamente non leggere, sapendo le loro posizioni etico-politiche, ecco, si sa benissimo quale sarà la conclusione di tutto il discorso, anche quando vengono applicate delle categorie estremamente raffinate. Cioè, mi pare che finora le analisi linguistiche, tranne qualche eccezione, segnalo ad esempio il tentativo compiuto da Giorgio Fedel sulla rivista Il Politico di procedere ad un'analisi del fascismo applicando le categorie di Perelman e Titeka della filosofia del trattato sull'argomentazione. Dicevo, tranne questo caso, cioè, mi lasciano veramente freddo. Anche il convegno che c'è stato a Genova sulle parole del fascismo mi è sembrato tutto sommato inconcludente. Ecco, quello che invece non mi trova molto molto d'accordo, quando Pombeni dice gli scrittori fascisti sono tutti teoricamente assai deboli. Cioè, è vero che esiste una specificità fascista che è estremamente debole, però non dimentichiamo che nel fascismo confluivano scuole storiografiche e direi politologiche estremamente serio, di cui si è perso del tutto il senso. Per esempio Volpe, no? Ecco, Volpe è legato alla vecchia storiografia conservatrice, forse anche tedesca, legata alla ragion di Stato, alla storiografia della ragion di però Stato. Subì anche il marxismo. Ecco, subì anche il marxismo, infatti Croce, ecco, definì la sua scuola con grande dispetto di Volpe, che non voleva essere confinato nella definizione crociana, la scuola economico-giuridica. Ora, a me sembra che almeno questo aspetto dei rapporti politici, ecco, in molti teorici del fascismo ci fosse e assai netto, cioè l'importanza della ragion di Stato. Ecco, qui si apre un discorso enorme, però A me pare di poter dire in sostanza questo, cioè che la tutta, quasi tutta, la storiografia politica contemporanea europea, e specialmente francese, tedesca, italiana, ha perso il senso della ragione di Stato. Cioè tutta la scuola di Ranke, che va da Ranke a Magnecke, eccetera, è stata relegata tra i ferri vecchi del mestiere storiografico. Questo, secondo me, può essere spiegato, ecco, in termini di sociologia della conoscenza, cioè storici che appartengono, che sono cittadini di stati divenuti di serie B, di serie C, eccetera, credono che le armi, ecco, non siano più un fattore politico cruciale, proprio perché gli stati di cui fanno parte non le detengono più. La politica viene decisa oggi, come sempre, dagli stati che hanno le armi, cioè l'America e la Russia. Ecco, il fatto che gli europei non abbiano più armi si è tradotto, e qui si potrebbe fare un discorso di sociologia della conoscenza estremamente interessante, in storia sociologica lunga durata, la non importanza poi delle battaglie, che è arrivata a questa storiografia, che è arrivata a far dire ad uno storico che si richiama alle Annales che in fondo la battaglia di Normandia sul piano della lunga durata non ha più molta importanza, chi l'abbia vinta, chi l'abbia persa, tanto il fiume della lunga durata portava senz'altro a quella foce, che è la foce in cui noi viviamo. Ora, a mio avviso invece è estremamente importante che la battaglia di Normandia sia stata vinta dagli americani e non da Hitler, perché la lunga durata sarà pure una cosa molto interessante e suggestiva, ma la vita media di un uomo sono 70 anni, e che sul piano dei secoli poi, ecco, le cose si trasformino lentamente, eccetera, per cui tutto sommato, ecco, la storia, ecco, procede in ogni caso verso determinati esiti, non è che ci interessa molto. Se Hitler vinceva la battaglia di Normandia, noi non saremmo qui a discutere sulla battaglia di Normandia, a discutere sui rapporti tra fascismo e nazismo. Ora, a mio avviso, c'era qualche cosa che nella storiografia, nel pensiero fascista, era estremamente importante dal punto di vista teorico e concettuale, cioè il senso perdurante dell'importanza delle armi e del potere nella vita degli stati. E questo non è casuale, perché in effetti, e qui mi ricollego a quanto detto nel breve sunto della relazione, ecco, una delle ragioni fondamentali, una delle cause fondamentali del fascismo è anche la vittoria nella prima guerra mondiale. Questo spaventoso vuoto di potere che si apre nell'Europa centrale e balcanica, che consente ad una potenza di serie B, ma che la vittoria rende di serie A come l'Italia, ecco, di giocare la sua carta internazionale. Cioè, a mio avviso, senza le armi e il potere non c'è fascismo, c'è gheddafismo. Ci sono quei movimenti, ecco, ci sono, sì, però, le armi non da quella che Ranke definiva la grosse Macht, la grande potenza, eccetera. Ora, a mio avviso, se non si ricollega, ecco, la genesi del fascismo a questa possibilità di svolgere il ruolo di grande potenza che la vittoria, ecco, apre realmente all'Italia, ecco, certe cose si capiscono. E allora mi pare legittimo, ecco, stabilire veramente che cosa i fascisti pensavano di sé, per vedere se ciò che i fascisti pensavano di sé può dirci qualche cosa di significativo su ciò che il fascismo realmente era. Quindi non analisi linguistica nel senso di Cortellazzo, eccetera, non mi interessa, ma nel senso, cioè nel senso di prendere gli stati della mente come fatti ed esaminare la capacità di questi fatti di spiegarci altri fatti, no? E secondo me il metodo, questo tipo di ricerca, qualche risultato lo può dare. Ecco, non sono naturalmente d'accordo con quanto tu, Paolo, dicevi che la scienza politica americana è un disastro storico. Ecco, tendo anzi a ritenere che la scienza politica americana sia uno degli episodi più importanti, ecco, e significativi del nostro tempo per chi si occupa di queste discipline. L'esempio che tu facevi, Federico il Grande, precursore di Lenin, questo non è un esempio... No, Pietro il Grande. Pietro il Grande, precursore di Lenin, ecco, precursore di Lenin, è così, cioè non riguarda semmai tanto la scienza... Sì, sì, no, lo capisco. Non riguarda tanto la scienza politica americana quanto la vecchia storiografia europea, che ci sia un rapporto tra Luigi XIV e i Giacobini, l'aveva affermato Tocqueville, è convinzione di Marx, e credo che sia anche uno dei cavalli di battaglia della storiografia marxista sull'ancien regime, no? Uno storiografo marxista è portato a simpatizzare con Luigi XIV e ad antipatizzare con il Parlamento di Parigi, è portato a simpatizzare con gli intendenti regi e ad antipatizzare con tutta quella miriade di poteri locali che al potere regio si oppongono, eccetera. Mi trovo invece d'accordo il rilievo sul pericolo della perdita del contatto tra storiografia e dottrine giuridiche, aggiungerei anche dottrine amministrativistiche e dottrine economiche. Ecco, in uno dei libri più belli che abbia letto sul pensiero, sull'ideologia liberale in Italia, il libro di Giuseppe Are, Economia e politica nell'Italia liberale, ecco, questa esigenza è fatta valere in termini assolutamente convincenti. Ecco, poi non mi trovo assolutamente d'accordo il tuo rilievo che Gesellschaft e Gemeinschaft sono due categorie obsolete. Non mi rifaccio all'argomento d'autorità, a Raymond Aron che scriveva in uno dei suoi primi libri sulla sociologia tedesca, che queste due categorie non erano due categorie sociologiche, ma erano la stessa sociologia. Questo è un argomento di autorità, mi pare, che non solo in Tennis, ma soprattutto nella trascrizione weberiana di queste categorie, ecco, ci sia una sostanza oggettiva che non è affatto obsoleta, ma l'argomento, a mio avviso, forte è che in ogni rapporto politico e sociale, ecco, noi possiamo individuare degli interessi, ecco, riferiti al mantenimento e al potenziamento di quel rapporto, e degli interessi che trascendono il rapporto, che vanno oltre il rapporto. Cioè, in questo senso, mi pare che la distinzione sia tuttora valida, no? Cioè, l'interesse del quadro nazionale italiano è diverso dall'interesse del quadro nazionale austriaco o tedesco, no? Ecco, nella misura in cui il quadro nazionale italiano è un insieme strutturato di rapporti che debbono durare nel tempo ed essere potenziati. Ora, in questo mi pare che il principio della Gesellschaft, che poi in parole povere è il principio di prestazione, è un principio che va oltre questo. Cioè, se il mio agire è riferito al mercato, a me non interessa nulla che la mia industria, ecco, per il Trentino costituisca un disastro economico, perché il mio agire intenzionato è al mercato. è ad una entità, ad una area assai più vasta di quella del Trentino o della Liguria, eccetera. Il mio agire, ecco, è intenzionato a qualcosa, ad un principio, al principio del vendere e comprare laddove le opportunità sono migliori, e questo principio può entrare in conflitto con un altro principio che mi prescrive l'equilibrio ecologico della regione in cui vivo, più importante di altre considerazioni, come potrebbe essere per esempio la considerazione relativa al mercato. C'è un importantissimo storiografo ceco, Rock, ecco, il quale ha dimostrato che in realtà il capitalismo non solo non fu portatore di stanze nazionaliste, ma il grande capitalismo boemo, ecco, fu portatore di stanze sovranazionali, cioè non era affatto interessato al crollo dell'impero austriaco, mentre portatrici di stanze nazionaliste erano le classi medie, piccolo borghesi, ecco, la piccola borghesia intellettuale, eccetera. E evidentemente il riferimento, posso dire, usando le categorie, sia pure cum grano salis, le categorie weberiane, che il riferimento di questi grandi industriali boemi era un riferimento Gesellschaft, riferito a qualcosa, il mercato, ecco, il cui principio di fondo era il principio di prestazione, che imponeva una razionalità specifica dei comportamenti economici e non era invece riferito alla lealtà nei confronti dei miei connazionali. Weber, grandissimo, tutto questo lo scrisse nel saggio sui contadini polacchi e sul problema della nobiltà elbana, il grande problema della snazionalizzazione delle terre elbane, ecco, a causa della politica di reclutamento della manodopera della nobiltà tedesca. Ora, in questo senso, a me il fascismo seguita a sembrarmi un movimento di sinistra, cioè di destra, perché il riferimento del fascismo è la comunità italiana. E qui c'è il grosso problema dello Stato, un problema enorme e affascinante per un filosofo politico. In fondo, l'ideologia francese, l'ideologia l'89, no? Ecco, considera lo Stato qualche cosa di provvisorio. Cioè, perché considera lo Stato qualche cosa di provvisorio? Perché se la definizione del cittadino è una definizione che fa riferimento a caratteristiche universali, ecco, a caratteristiche che appartengono all'intero genere umano, la giustificazione della divisione dell'umanità in quei grandi compartimenti stagno che sono gli stati nazionali non ha senso. Ecco, il rivoluzionario coerente, ecco, deve fare riferimento allo Stato come ad un quadro istituzionale provvisorio. L'ideologia della grande nazione, l'ideologia dell'espansione rivoluzionaria è questa, cioè noi portiamo gli ideali dell'89 in Europa e una volta che noi portiamo questi ideali dell'89 l'Europa deve costituirsi in un grande Stato sovranazionale. In fondo io mi occupo, ecco, professionalmente di temi europeisti, l'europeismo nasce qua, cioè l'europeismo nasce proprio nell'89 come impossibilità di giustificare la divisione dell'umanità in stati. Ecco, per chi ha un'antropologia filosofica di tipo rivoluzione francese, il passaporto, la barriera doganale, ecco, l'essere impediti dal lavorare nell'altro paese, dove nell'altro paese io posso percepire salari più alti, e l'essere impedito di lavorare in quel paese perché i sindacati di quel paese temono la concorrenza della manodopera, e beh, insomma, riconosciamolo, tutto questo è un'assurdità, ecco, dal punto di vista dell'89 e della rivoluzione francese. Non è un'assurdità dal punto di vista di un riferimento di legittimità, ecco, volto allo Stato nazionale. Ora, quello che diceva Valiani mi trovavo completamente d'accordo, tranne forse, ecco, un'osservazione. Cioè, è vero che il sindacalismo rivoluzionario e molte altre correnti più o meno, ecco, situate a sinistra dello schieramento politico confluiscono nel fascismo. Però confluiscono nel fascismo, ecco, nel momento in cui accentuano quella che è la caratteristica comune di queste correnti, cioè la protesta contro la società degli interessi, la protesta contro il cosiddetto uomo astratto, contro l'ideale giacobino dell'umanità che in tutti è uguale. No? Ecco, e questo momento c'è sempre, c'è anche quando i Pannunzio, anche quando i Sorel militano a sinistra. D'altra parte, Valiani, che è un profondo conoscitore della vicenda legata al caso Dreyfus, ecco, ricorda bene che Dreyfus, ecco, non è soltanto la bestia nera della destra, ma in un certo periodo lo diventa anche per la sinistra, perché Dreyfus non solo è il rappresentante della borghesia ebraica, perché il movimento operaio deve difendere questo borghese benestante che non si sa bene se abbia tradito o no, ma perché per molti della sinistra, specialmente per esempio Drumont, la France Juive, eccetera, movimenti che sono a sinistra, nel senso che pescano nell'elettorato di sinistra, che hanno un linguaggio di sinistra, che hanno dei legami con la sinistra storica. Per esempio Sternella ha dimostrato che, ecco, che tutto l'antisemitismo francese ha dei fortissimi legami con la Comune, no? Con la Comune e attraverso e con gli ultimi esponenti della grande, ecco, corrente democratico radicale, dei Considérant, eccetera. Ecco, perché Dreyfus è proprio il simbolo dell'89, quell'89 che emancipa l'ebreo, cioè quell'89 che emancipa uno che di un'altra comunità, no? Che rende l'ebreo uguale al francese, eccetera. Poi mi trovo d'accordissimo con Valiani, direi che sono d'accordo al 98% con quello che lui ha detto quando invita a non dividere le teorie in destra e sinistra, no? Cioè, io ho scritto un libro proprio per dimostrare che questa distinzione destra e sinistra non è certo la distinzione più significativa. Ma direi che la mia stessa definizione di ideologia, ecco, dà ragione a quello che diceva Valiani. Cioè, per me le ideologie sono un insieme di fatti e di valori, cioè sono un insieme di prescrizioni e di descrizioni, di analisi e di valutazioni. Quello che distingue ad esempio l'ideologia di destra da quella di sinistra non è affatto la prevalenza delle analisi sulle descrizioni o viceversa, perché per esempio esistono delle famiglie di destra, il conservatorismo ad esempio, che sul piano delle analisi della realtà sono assai più interessanti di famiglie di sinistra come la famiglia democratico radicale. In parole povere, ecco, se io leggo Pannella mi insegna assai meno cose sui processi politici, sui rapporti di struttura sovrastruttura, eccetera, ecco, di quello che non mi insegna ancora oggi Barthes, no? Sì. Barthes, tutta la tradizione conservatrice inglese che va da Barthes fino al neoconservatorismo contemporaneo. Non paragonerei Pannella a Barthes. No, cioè non è chiaro che cioè, chiaro che la statura è incomparabile, cioè io parlo di famiglie ideologiche. No, allora dovresti paragonare semmai Alain. Alain, che poi fu anche il maestro di Aronabar, esatto, la celesta Repandella, riferirei, però, tu hai parlato di Aronabar, riferirei Alain, però direi, filosofo del radicalismo francese. Però direi che ci sono molti, molti aspetti in comune. Ecco, Alain, per esempio, Alain, tutti gli scritti di Alain, Marx, Ulaguer, che cos'è la politica, la filosofia radicale, eccetera, ecco. Cosa mostrano? Mostrano un'assoluta prevalenza dei valori sui fatti, no? Laddove invece questa grande tradizione conservatrice mostra il contrario, cioè la capacità di identificare i fatti, anche se questa capacità è finalizzata a valori che sono valori di conservazione. Ecco, direi che... Adesso possiamo continuare. Il professor Lill. Molto bene. Allora, lei ha letto all'Alberto Latini nella sua lunghissima relazione che il quadro preferito di legittimazione del fascismo è la nazione, e che il fascismo si intende come il grande collettore e che il mulino della nazione riceve acqua, secondo la concezione fascista, da tutte le tendenze politiche che sono operanti nel paese nella sua storia. Dopodiché vorrei riportare molto brevemente il discorso al confronto tra fascismo e nazismo e allacciarmi alla relazione che ieri ha fatto Alcide. E vorrei porre una domanda, ma purtroppo il vero interlocutore non c'è più, perché Schiller è andato via, ma forse tu potresti rispondere al posto di Schiller. Se si confronta quel quadro spirituale che lei ha tracciato stamattina con quello che altri ha tracciato ieri, cioè con un nazismo che vede il suo quadro preferito e la sua legittimazione nella razza e che non vuole essere collettore ma rifiuta, perché rifiuta la tradizione liberale, rifiuta la tradizione sociale democratica, rifiuta la tradizione cattolica e la politica, e dice di voler creare tutto un nuovo mondo. Allora io mi domando, dove sono le comunanze, almeno sul campo spirituale e ideologico? Dopo la sua conferenza, crederei che le differenze di fondo sono ancora più profonde che credevo fino ad ora. Grazie. Danke schön. Signor Trinchese. Volevo domandare al professor Francesco se ha avuto occasione, caso in che misura, di considerare la posizione di un oppositore del regime fascista non in quanto tale, ma in quanto teorico del fascismo. Parlo di Francesco Luigi Ferrari, il quale è sostanzialmente dimenticato, ma ritengo sia un pensatore non secondario sul tema, almeno per quanto riguarda quel suo grosso volume, Il regime fascista, che è stato riedito lo scorso anno. Ecco, particolarmente sulla considerazione del fascismo come se collocarlo appunto a destra, se sarà una categoria dei nostri tempi più che del contemporaneo. E poi per quanto riguarda, cosa che penso possa essere interessante, quella distinzione tra fascismo e nazismo che compare abbastanza di frequente in Ferrari, e mi viene adesso in mente quella polemica da lui instaurata con Mabel a Colonia nel 1927, se non sbaglio, sulla differenza anche caratteriale tra italiani e tedeschi nell'interpretazione dell'ideologia totalitaria, cioè quando Ferrari ancora a Baden, quando Baden dice a Ferrari noi non siamo come gli italiani, e Ferrari rimanda e dice ma noi non siamo tedeschi, e se voi arriverete al totalitarismo ne avrete un'interpretazione, se possibile, più rigida. E adesso dottor Hinz. Sì, io volevo tornare brevemente sul dibattito sulla destra e sinistra, e mi pare che non si possa prescindere questo dibattito dalla filosofia della storia, perché perché tutti i concetti che definiscono la destra e la sinistra, rivoluzione, progresso, conservazione, eccetera, sono concetti che appartengono di per sé alla filosofia della storia. E per non fare il discorso troppo complicato, vorrei subito aggrapparmi a degli esempi. Se prendiamo Marx, abbiamo due concetti della storia contraddittori, non una contraddizione, a mio avviso, non risolvibile in termini marxiani. Abbiamo un concetto della rivoluzione, che era appunto come interruzione e neocostituzione della storia. Abbiamo allo stesso tempo un concetto, soprattutto nella polemica contro gli anarchici, evidentemente, è un concetto della storia come organico, organica maturazione, come una maturazione organica del tempo. E mi pare, se vedo bene, che nel nazismo è evidente, cioè in Marx praticamente sarebbe così, che la rivoluzione sarebbe il costituirsi di un soggetto che possa procedere, per appunto, che prima non esisteva. Nel nazismo, molto evidentemente, anche nel fascismo, tranne alcune eccezioni, mi sembra invece nettamente una prevalenza, una visione essenzialista, direi, per coniare un controtermine contro l'esistenzialismo, essenzialista della storia, allora di una sostanza, di un soggetto già esistente che semplicemente si sviluppa sempre con metafore biologiche. Questo mi sembra molto chiaro, questa mi sembra la funzione del concetto della razza nella filosofia della storia, mi sembra però anche prevalente, soprattutto naturalmente nella seconda fase, nel fascismo italiano, con i concetti di latinità, toscanità, impero, oppure anche i concetti di ritrovamento della gerarchia, eccetera, sono concetti che presuppongono già un soggetto che possa procedere, perciò stanno completamente contrari ad una concezione, diciamo, rivoluzionaria nel mio senso della storia. Grazie, adesso abbiamo tutto il tempo. Dunque, innanzitutto, cioè, risponderò brevemente a Trinchese, che Ferrari sì, è forse uno dei teorici più interessanti tra quanti abbiano ripensato in esilio il regime fascista. Ecco, io non ho molta consuetudine con questo scrittore, di cui conosco l'opera Le regime fascista e di cui ho avuto occasione di leggere recentemente un saggio molto interessante dovuto ad un mio amico dell'Università di Parma, Nicola Antonetti, proprio sulla concezione di Ferrari che Ferrari elaborò del regime fascista. No? Ecco, mi riprometto però in seguito di approfondire le mie conoscenze di questo autore. Ecco, per quanto riguarda adesso la risposta no, mi trovo d'accordo con quello che il professor Lille diceva, ecco, sulle differenze tra fascismo e nazismo. C'è effettivamente il riferimento Stato nazionale razza, effettivamente tale da far pensare a diverse intenzionalità di questi due regimi. Però questo non mi sembra, ecco, in contrasto con i rilievi svolti da Hinz a proposito del concetto di rivoluzione. E qui, così, insomma, devo rifarmi brevemente ad una teoria che io considero ecco, molto importante, cioè la teoria delle fasi della modernizzazione, ecco, elaborata dai politologi americani Almond e Powell, i quali in sostanza, ecco, definiscono, ecco, quattro grandi crisi nei processi politici moderni. Cioè la prima crisi, dicono Almond e Powell, è quella relativa alla costruzione dello Stato. La seconda crisi è relativa alla costruzione della nazione. La terza è una crisi di produzione, la quarta è una, cioè la terza è una crisi di partecipazione, la quarta è una crisi di distribuzione legata alla produzione e ai processi produttivi. Ora, secondo me, ecco, se noi riportiamo la genesi del fascismo e del nazismo allo schema di Almond Powell, ecco, possiamo, ecco, stabilire quella che fu una delle grandi difficoltà del fascismo, e cioè il fascismo fu un regime che si trovò a dover dare una risposta a tutti questi problemi assieme, ecco, in un brevissimo spazio di anni, problemi che in altri contesti nazionali si erano presentati in un certo senso in maniera più fortunata, in quanto, ecco, si era potuto in altri contesti nazionali rispondere alle quattro sfide, ecco, in diversi periodi di tempo. Ora, indubbiamente, ecco, non si riflette mai al fatto che il fascismo nasce in uno Stato che aveva soltanto 50 anni di vita, non di più. No. Ora, questo dato è un dato enormemente importante, no? Ecco, perché sta a significare che lo Stato in Italia ancora non c'era, perché uno Stato in 50 anni non si costruisce. Ma in Germania erano solo 50 anni. Ecco, in Germania, cosa era successo? Cioè, in Germania non c'era uno Stato nazionale, ma c'era una nazione, proprio per le ragioni che Mosse ha svolto nei suoi libri, a cominciare dalla nazionalizzazione delle masse. Cioè c'era un'identità nazionale, cioè c'era una sicurezza etnico-culturale. E soprattutto c'era un dato di fatto, a mio avviso, estremamente importante, e cioè che i tedeschi non erano governati da altri, no? C'erano interferenze di altri nella politica tedesca, proprio perché la Germania era frammentata in mille stati e staterelli, con qualche monarchia di media grandezza e un impero laterale in parte tedesco, ma in parte traente la sua legittimità non dal riferimento alla nazione tedesca. Anzi, qui abbiamo il massimo esperto di temi asburgici, il professor Wandruska. Mai l'impero tedesco giustificò se stesso in riferimento alla specificità nazionale tedesca, semmai lo giustificò, cioè l'impero asburgico, semmai lo giustificò con la missione di casa d'Austria. Ma l'origine col Sacro Romano Impero. Ecco, con l'origine del Sacro Romano Impero, però non c'era il riferimento nazionalista che invece costituirà l'anima dei movimenti nazionali. Ora, il fascismo si trovò a dover in parte ricostruire uno Stato che la guerra aveva sconvolto. E qui le osservazioni di Giolitti sono veramente pertinenti. Cioè l'Italia, entrando nella Prima Guerra Mondiale, ecco, metteva in crisi i primi 50 anni in cui faticosamente aveva ricostruito la sua unità nazionale. C'era però il problema della costruzione dello Stato, ecco, nel caso del fascismo italiano era contemporaneo al problema della costruzione della nazione, ed era contemporaneo alla crisi di partecipazione, ed era contemporaneo alla crisi di distribuzione. Perché? Perché, come a tutti noto, la grande promessa che era stata fatta ai combattenti era quella di una vita più agiata a guerra finita, distribuzione delle terre, ecco, revisione dei rapporti sociali anche nelle fabbriche, una nuova democrazia del lavoro, eccetera. Ora, questo dava al fascismo, ecco, assieme allo specifico italiano che ho accennato in precedenza, una carica che era necessariamente rivoluzionaria a livello di ideologia, no? Era necessariamente rivoluzionaria nel senso che si prometteva a tutte quante queste esigenze un qualche soddisfacimento. Quindi il fascismo non poteva, ecco, no, essere antisindacalista, doveva essere contro le leghe rosse, ma non contro l'idea sindacale in quanto tale. Non poteva essere contro la contro la partecipazione, ma doveva darsi una certa legittimità democratica. E qui sarebbe interessante così esaminare i tanti testi sul concetto di democrazia del fascismo, e va rilevata una sola cosa, cioè che a parte Gentile e Volpe, che avevano questa formazione liberale, conservatrice, eccetera, ecco, mai i fascisti definirono se stessi antidemocratici. Cioè, se molto volentieri si definirono antiliberali, ecco, sull'antidemocratico avevano sempre tante riserve da fare. Cioè, loro senz'altro il mondo della liberale era rifiutato, era un mondo diverso. Ecco, però, per quanto riguardava la democrazia, c'era sempre un aggettivo che accompagnava l'autoqualificarsi democratici. Cioè, noi non siamo antidemocratici, noi siamo veri democratici. Questo noi diceva anche Goebbels. La vera democrazia. E certo che lo diceva anche Goebbels, perché, ecco, perché il nazismo era fenomeno legato, come appunto ricordavo, il Mosse, alla nazionalizzazione delle masse, eccetera. Però in Italia c'era un altro elemento, ecco, di differenziazione, ed era l'elemento del progetto, che mancava nell'etica, e nell'ideologia nazista. Ora, è vero quello che diceva Inze, che nel caso del nazismo c'è la riscoperta di qualche cosa che esiste, non? E cioè la razza ariana, la razza, anzi direi meglio, non razza ariana, diciamo razza tedesca, razza germanica, perché, nordica, ecco, la razza nordica, perché nelle ultime elaborazioni ideologiche dei teorici della razza, ecco, il concetto di ariano a poco si appannò a favore del concetto tedesco, nordico, germanico, eccetera. Ecco, però nel fascismo non bisogna dimenticare che ciò che viene riscoperto a livello di latinità, di romanità, eccetera, ecco, non è proprio qualche cosa che ontologicamente già esiste con tutte le sue caratteristiche immanenti, eccetera. Ma è soprattutto un progetto che era già stato realizzato. Cioè, perché i fascisti esaltano la romanità? Perché ritengono che la romanità, ecco, potesse porsi come esempio di stato forte e corporativo, quindi la romanità viene valorizzata in quanto rappresentazione ante litteram di qualche cosa che poi il fascismo rappresenterà. Cioè, rimane sempre a caratterizzare anche queste fasi, diciamo pure ideologicamente involute, ecco, del fascismo, un riferimento all'etica del progetto. Romanità significa corporazione, significa idea dello Stato forte e nello stesso tempo dello Stato democratico e dell'impero. E qui Variani tocca al solito un punto di enorme interesse, ecco, che io ho già esaminato in alcuni articoli apparsi su Storia Contemporanea, ecco, i progetti sovranazionali del fascismo e del nazismo. Ecco, non, ma questo meriterebbe un discorso a parte, accenno soltanto ad una circostanza molto importante, cioè che il fascino che l'idea fascista e nazista ebbero all'estero, ecco, non vanno dissociati dalla sensazione che fascismo e nazismo potessero risolvere il problema della divisione dell'Europa. Ecco, quindi anche l'impero nell'ideologia fascista, ecco, non era tanto una regressione, non era tanto una regressione ad un mondo pre-89, tranne ovviamente nelle elaborazioni dottrinali di uno Evola o dei vari tradizionalisti più o meno ghibellini, ma l'impero era un po', ecco, come dire, io in altra, mi pare a Merano quando c'era il professor Vandruska, l'impero era un po' il federalismo degli imbecilli, no? Così come l'antisemitismo era stato definito il socialismo degli imbecilli, sia l'idea dell'impero che l'idea dell'Europa nuova di Hitler furono il loro federalismo degli imbecilli, cioè anche questi regimi totalitari, ecco, dinanzi a problemi oggettivi iscritti nel disegno oggettivo degli eventi, furono costretti a fare i conti con qualche cosa che urgeva, che premeva verso il superamento della compagine nazionale, ma non verso il superamento della comunità. Per esempio il maggiore giurista scandinavo, cioè Karl Ove Krona, un giurista molto molto socialdemocratico, nel senso che la sua teoria giuridica può essere considerata un po' la trascrizione a livello di filosofia del diritto, ecco, dell'ideologia della sinistra socialdemocratica svedese. Karl Ove Krona era nazista. Cioè era nazista, e lo spiega perché era nazista, in un opuscolo che venne tradotto in Italia nel 1942, era nazista perché l'ideologia nazista, secondo lui, non aveva nessuna importanza, la razza erano tutte quante balle, però c'era qualche cosa che non era affatto, ecco, irrilevante, e che Hitler stava risolvendo il problema della divisione dell'Europa. È una idea questa che si ritrova specialmente, direi soprattutto, nei collaborazionisti francesi, Indrié La Rochelle. Ecco, non è vero che i collaborazionisti francesi, ecco, siano stati, come dice Sternel, ecco, soprattutto orientati dal loro antisemitismo, anzi di antisemitismo non ce n'era poi molto molto. Ecco, direi che il collaborazionismo francese, in almeno in certe sue componenti, ecco, si illudeva che fascismo e nazismo potessero risolvere il problema della divisione dell'Europa. Il grande problema della divisione dell'Europa, che, e qui i fascisti vedevano giusto, ecco, aveva fatto perdere al continente europeo qualsiasi centralità e importanza sul piano delle relazioni internazionali. I fascisti avevano visto giusto, il che non significa che l'essere in posizione di predominio sia un bene o un male. E qui, per concludere, ecco, mi richiamo alla grandissima lezione degli scritti politici di Max Weber, che forse in Germania sono stati letti, ecco, in maniera non del tutto critica. Ecco, mi riferisco soprattutto all'opera di Wolfgang Mommsen, ecco, che praticamente taccia Weber di nazionalista, laddove a mio avviso neppure in quegli scritti del 16 e 17 Weber fu nazionalista. Però Weber pose un problema a mio avviso reale, cioè le scelte politiche non sono scelte a sopigliatutto. Cioè, scegliendo un valore, ecco, noi non salvaguardiamo tutti quanti gli altri. Se noi scegliamo la giustizia, non necessariamente assieme alla giustizia avremo la libertà, il benessere, ecco, una vita culturale molto intensa, eccetera. E Weber aveva detto alla Germania: la Germania deve scegliere se essere una grande potenza nel cuore dell'Europa o fare la fine della Svizzera. Ecco, questa, direi, questa impostazione era molto nazionalista, ma Weber non era affatto nazionalista, aggiungendo, ecco, scegliendo la via della Svizzera, ecco, la Germania può iniziare un grande periodo di fioritura culturale, artistica, eccetera, come aveva conosciuto all'epoca di Weimar, potrebbe essere una grande, bellissima Svizzera. Ecco, scegliendo la potenza, però sceglie, ecco, la possibilità di avere qualcosa da dire nelle sedi in cui si deciderà il destino del mondo. Purtroppo, e qui anch'io sono con Leo Valiani un po' hegeliano, ecco, la storia dell'uomo è la storia di una grande tragedia, no? È una delle frasi più belle che abbia mai scritto Hegel, è che il dramma della storia non è quello che siamo costretti a scegliere tra la ragione e il torto, ma il vero dramma dell'uomo sulla terra è che spesso, quasi sempre, è costretto a scegliere tra due ragioni. No? Grazie. Ringrazio il professor Cofrancesco, che con queste larghe vedute di filosofia della storia ha concluso il nostro seminario. Sì, io con una parola, forse in tedesco, posso ritornare al nostro tema, Faschismus und Nationalsozialismus. Wie das immer bei solchen Seminaren ist, haben wir eine ganze Reihe von Fragen erörtert, wenige Fragen gelöst und noch viel mehr Fragen gestellt. Es haben sich neue Fragen, glaube ich, für jeden für uns ergeben, neue Erkenntnisse. Ich möchte allen sehr herzlich danken dafür, dass dieses Seminar, das mir ja, wie ich anfangs sagte, ganz besonders, auch aus menschlichen Gründen ganz besonders am Herzen gelegen ist, so gut gelungen ist, dass wir durch solche Berühmtheiten wie Freund Valiani, Bracher und auch die ganze jüngere Generation wie Gentile, Cofrancesco und Pombeni hier und auch unsere deutschen Freunde, Herr Petersen, Herr Schieder, Herr Lill, Herr Altgeld, hier doch, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, eine Reihe von neuen Ausblicken erhalten haben. Wenn ich eine ganz einfache, auf eine ganz einfache Sache zurückgreifen kann, ich glaube, wir haben bei dieser Herausarbeitung doch gesehen, wie unendlich viele Unterschiede auf allen Gebieten es zwischen Faschismus und Nationalsozialismus gibt, bei allen Gemeinsamkeiten, die wir ja auch festgestellt haben. Aber ich glaube doch, und das ist jetzt sozusagen mein persönliches Bekenntnis, wobei ich zugebe, dass man eigentlich immer das findet, was man sucht, das ist schon seit dem heiligen Augustinus und so weiter, ja bekanntlich, dafür gibt es viele Zitate, dass man eigentlich, ich mich in meiner Überzeugung bestätigt finde, dass der Nationalsozialismus und der Faschismus doch sehr wesentliche Unterschiede gehabt haben bei aller Gemeinsamkeit, bei der Gemeinsamkeit des Schicksals, des Unterganges im Jahre 45. Sie haben sich beide gegenseitig, persönlich Hitler und Mussolini, aber auch Faschismus und Nationalsozialismus, gegenseitig in den Abgrund gezogen. Aber die Unterschiede sind doch, glaube ich, so groß, um zu einer einfachen Terminologie zurückzukehren, dass es eigentlich im Sinne der Erkenntnis nicht ganz zweckmäßig erscheint, immer vom deutschen Faschismus zu sprechen und den Faschismus überhaupt völlig aufzubauen. lösen dadurch, dass man ihn zu einem allgemeinen Begriff macht. Und ich habe das Gefühl gehabt in den letzten Jahren, dass man in der Faschismusdiskussion dann den Faschismus gleichsam, den internationalen Faschismus, und das ist ja eigentlich ursprünglich eine Propagandaphrase, ein Propagandatrick, wenn Sie so wollen, oder eine Propagandathese des Kommunismus der 30er Jahre gewesen, dass der Faschismus eine Form ist, des Kapitalismus, dass der Faschismus sozusagen fast ein Lebewesen ist, das agiert, das dann eine Zeit lang man ihm einige Köpfe abgeschnitten habe, also eine Hydra, die immer wieder kommt, genauso eigentlich eine Chimäre ist, im Grunde genommen dieses Bild vom Faschismus, wie es ja andererseits auch das von der Bourgeoisie ist, die internationale Bourgeoisie als Kraft oder eine Persönlichkeit, die selbst denkt und arbeitet und sagt, jetzt müssen wir das bekämpfen, jetzt müssen wir das bekämpfen, gibt es ja nicht, sondern die Bourgeoisie ist eben, es gibt Bourgeois in jedem Land, in jedem ist es verschieden. Diese Vorstellung ist fast ebenso irreführend wie die umgekehrte an der äußersten Rechten, dass die Freimaurerei oder das Weltjudentum sozusagen hier Pläne hat, hier geradezu die Idee, wie es bei Hitler dann vielfach ist, der Weltbolschewismus, das Weltjudentum oder womöglich das Weltjudentum in den beiden Formen des Kapitalismus und des Weltbolschewismus im Grunde dasselbe sei und die Freimaurerei womöglich auch noch dasselbe. Solche terrible Simplificateur sind, glaube ich, etwas, was gerade wir Historiker ablehnen sollen. Und ich glaube, es hat dadurch unser Seminar auch dazu beigetragen, die Gemeinsamkeiten sicher, aber vor allem die wesentlichen Unterschiede zwischen Faschismus und Nationalsozialismus herauszuarbeiten. Und dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar. Es gibt mir jetzt so viel Mühe. Ravelli, nachher. Sì, c'è l'estratto.